Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, eccomi qua, puntata veramente molto interessante. Oggi si giocheranno la finale del nostro contest. Dopo 4 mesi di duro lavoro e di selezione, i ragazzi sono qui emozionatissimi. E alla mia sinistra è venuta la responsabile delle edizioni della Warner e della Columbia, Anna Laura Carani, che io ringrazio. Anna Laura, benvenuta. Grazie Pino. Senti che voce, avvicinati, sentite che vocetta che c'hai, non è la doppiatrice. No, assolutamente no. No, però ci scegli, tu scegli. Anche se ogni tanto mi produco. Ah, fai come Hitchcock, ti regali una parte all'interno. Sì, certo, faccio il cameo, una riga, due righe. Adesso io questa cosa non la sapevo, Anna Laura, che ogni tanto doppiavo. Alla mia destra invece, con tanto di pianoforte, ci è venuto a trovare Gerardo Di Lelle, tornato senza accompagnamento, ma buongiorno a tutti. Vocale, siamo qui con Gerardo perché voglio dirvi che il 1 gennaio, non il 31, ma il 1 gennaio 2018, ci sarà veramente l'alternativa al concerto di Vienna, con musica austriaca, con la grande orchestra di Gerardo, che suonerai le musiche delle colonne sonore italiane. Degli ultimi 50 anni, le cose più belle, best of, ho scelto. Mi fregio della un'ottima scelta tra Morricone, Piovani, Rizzo Ortolani, Servio Cipriani, orchestra Piero Piccioni. Quanti elementi? 71 sul solo? Sì, beh, sì. Ma soprattutto dobbiamo dire che alle 19 all'Auditorium Parco della Musica sarei lì a festeggiare il nuovo anno. Sì, è una musica che porta bene. È una musica che porta bene. Poi a Roma non c'è granché il 1 gennaio, è quasi tutto fermo, a parte le sale, a parte il lavoro vostro che funziona sempre. No, io lavoro il 31, il 31 sto lontano, però certo, tornerò. Certo. Però Gerardo è una garanzia, in tutto il mondo è una garanzia. Grazie, come al solito esportiamo talenti noi, no? Questa è la fuga dei cervelli. È la vera fuga dei cervelli, certo. È questa qui. Vicino a lui invece c'è un'altra persona molto importante, Nicola De Carne, dice nome e cognome che non ci racconta niente, ma quello che costruiremo insieme a Nicola e a questa associazione straordinaria è una parola per Nemo. Che cos'è? E nel frattempo c'è al telefono una persona che sto aspettando di presentarla, ma raccontami perché è una cosa bellissima questa. Ciao Pino, prima di tutto, buongiorno a tutti. Una parola per Nemo è un'iniziativa del Centro Clinico Nemo. Con una parola per Nemo abbiamo avuto quest'idea di chiamare tutti, chiamare la collettività a donare una propria parola per chi la voce e la parola la perde a causa della SLA. Noi ci occupiamo di SLA, di cura dei pazienti SLA e SMA. E ci è venuta un'idea più grande. A me, quando il mio amico Lele Mora mi ha chiamato e mi ha sottoposto questa possibilità di incontrarci, mi si è aperto un mondo, Anna Laura, ne parlavano anche con lei, perché a questo punto non regaliamo una parola, qui parliamo di voce, i doppiatori, gli attori doppiatori, i miei colleghi, amici di Anna Laura, tutti coloro saranno pronti a donare l'intera voce alle persone. Sì, è questa l'idea, sì. E speriamo che sia un effetto domino importante tutto un'idea questo. Un'idea incredibile, fantastico. Invece di dire soltanto una parola, sì, come pubblicità che faremo ascoltare, dove Vialli, Eros Ramazzotti stanno spingendo questo virale all'interno del mondo del web, noi cercheremo invece di regalare l'intera voce. Sarà un lavoro lungo. Sarà un lavoro meraviglioso. Prima di tutto sarà un lavoro unico al mondo, sì. Prima di tutto. È bello, gli italiani sempre primi davanti a tutti. Assolutamente sì, assolutamente sì. La fantasia è la nostra capacità, è quello di che ci mantiene dal in vita, nulla, no? E allora io volevo che ascoltasse la parola dei nostri primi ospiti, un mio grande amico che è Giovanni Malagò, soltanto semplicemente Giovanni Malagò, presidente sì del Conicer, ma Giovanni, ci sei Giovanni? Ciao, buongiorno a te Pino, buongiorno a tutti. Buongiorno. Complimenti per questa iniziativa della voce per Nemo. Benissimo. Ecco, volevo proprio che tu ascoltassi questa cosa. Con Giovanni ci conosciamo da tanto tempo, ho chiesto di rubargli un 10 minuti domenica, anche perché gliene rubano abbastanza durante tutto l'arco della settimana, ma Giovanni è soprattutto un uomo straordinario e non è piaggeria, perché io non gioco più a pallone da tanto tempo, né a pallacanestro né a tennis, non mi può essere utile in niente, se no, la pensiamo anche diversamente dal punto di vista sportivo, per cui però ci unisce una grandissima stima, perché è un grande imprenditore, perché tu sei stato un ex giocatore di calcio a 5 italiano, Giovanni? Ho giocato tanti anni in Serie A, sono stato fortunato di essere in un gruppo meraviglioso. Hai vinto 3 scudetti e 4 Coppa Italia. Sì, ma erano bravi i miei compagni. Ecco. Ah, con l'umiltà del presidente. Assolutamente, però insomma, ma sai, come tutte le cose, anche questo sport, il calcio a 5, che è così tanto praticato, era diverso. non si giocava sull'erba sintetica, ma si giocava sulla terra rossa, non si giocava con le scarpe di adesso, ma si giocava con le mitiche Superga. Sì, che poi quando le toglievi te ne accorgevi che cos'era. Ma sai, poi adesso è come il calcio, il famoso discorso, è talmente atletico, talmente fisico, si gioca talmente veloce che magari rischia che qualcheduno che è stato un gigante negli anni, non so, 50, 60, 70, magari oggi farebbe difficoltà. Sì, magari contrario, però certo. Insomma, all'epoca ci siamo molto divertiti. E senti Giovanni, la cosa molto bella che ha Giovanni, noi parliamo di voce ovviamente in tutte le sue declinazioni in questa trasmissione, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo, ma non è, come dico sempre, la bella voce, ma sono le belle intenzioni. E tu Giovanni sei uno dei pochi che quando riesce a fare uno speech riesce ad essere chiaro, riesce ad essere seguito, ed è questo, per questo motivo che io ti ho cercato, non per parlare né di politica, né di CONI, né di eliminazione dell'Italia dai mondiali, né tantomeno per quanto riguarda le Olimpiadi, che già ci avrai le tasche piene per non dire qualcos'altro per quanto riguarda tutto questo, ma il fatto della voce. Tu sei come... l'hai trovato naturale il tuo percorso vocale, il tuo modo di esporti quando c'è una platea di fronte a te? L'hai studiato? Come ti sei avventurato all'interno del mondo della comunicazione? Allora, innanzitutto ti ringrazio perché in un momento storico in cui tante persone magari non sono tuoi colleghi tradizionali, ovviamente è un rincorrere appunto su questi temi, eliminazione, Olimpiadi in Corea, salta. Quant'altro, fa piacere che spaziamo su altre cose. Ma guarda, no, penso che sia un discorso assolutamente naturale, come tutte le cose nella vita, Pino, penso altrettanto che sia fondamentale l'esperienza, cioè il vissuto. Credo che nel percorso di crescita o degli anni ti abitui, ti confronti, soprattutto se sei abituato a stare in mezzo al pubblico. Io sono da molti anni felicemente e orgogliosamente una persona che vado nelle scuole, vado nelle università. Riesci a comunicare. Ti aiuta moltissimo. L'altra considerazione che tu stavi facendo, non amo assolutamente le citazioni, non sopporto moltissimo quelli che fanno spesso riferimento a quello che hanno detto gli altri e se lo appropriano o lo fanno diventare come se fosse un pensiero loro, e soprattutto forse col fatto dei giovani, per me è veramente indispensabile essere diciamo chiaro, essere utilizzare parole semplici, facilmente comprensibili, dirette, senza girare troppo intorno, perché penso che poi questo la gente vuole. Sì, ma poi se ne accorge. Se, la gente... se mi permetto di dire, spesso in televisione, al di là dei discorsi della politica, vedi della gente che magari sono anche intelligenti, sono anche molto capaci, molto competenti, però onestamente si perdono spesso dietro dei ragionamenti che purtroppo chi sta dall'altra parte, in questo caso dello schermo, non sono assolutamente... Noi abbiamo fatto infatti proprio questo, degli studi qui con Franco Fussi e Diego Cosso, che sono i più grandi vocologi, soprattutto Franco, dove proprio scientificamente di uno speech è l'8% e arriva il concetto, l'8-10%, il resto è corpo e voce. Nel senso che arriva quel colore. Abbiamo tolto le consonanti a certi speech politici internazionali senza toccare il colore politico, e con i decibel della voce riesce a capire che cosa arriva alla gente. Di Hitler ovviamente, togliendo le consonanti, arriva la rabbia. Di Martin Luther King arrivava questa dolcezza melliflua, eccetera. Ma lo vedi, perché gli hertz della voce hanno un'importanza totale, il modo di esporre, la serenità con la quale si esporre o con la veemenza con la quale si esporre, ma il colore è quello che arriva, perché il concetto è proprio per questo, quello che, per rafforzare quello che tu dicevi, si perde nei meandri dell'etere tutto questo, e la gente non ha capito che vuoi, si chiama il politichese, si chiama il commercialese, eccetera eccetera. Invece tu sei sempre stato molto chiaro, e ovviamente non si entra nel merito di un colore o di una situazione, ma la tua serenità anche rispetto a tutto quello che succede, che è successo e che ti sta arrivando addosso, l'hai sempre affrontato con grande serenità, e allora a quel punto dici ok, ce la farà, ne usciremo. Questo fa un vero leader, ed è quello che è interessante quando tu segui una persona, la segui perché dici ok, ha paura, non ha paura, ma a me mi dà coraggio, mi dà forza e ti seguirò. Lo dico pure a Anna Laura, tu pensa se in un film, che ne so, Braveheart, quello diceva andiamo a combattere il nemico, lo uccideremo, e tu hai fatto ammazzare da solo, perché io non vengo con te. Versione gay. Non vengo proprio a casa da mia moglie, quando arriveranno finirà. E tu, insomma, da questo punto di vista, Giovanni, poi c'hai, insomma, c'hai un curriculum che, se lo leggo, c'ho 3 pagine e mezzo, non lo leggo, Giovanni. No, no, ma dai, limitiamoci. No, ma no, infatti. Voi lo fate di mestiere, diciamo, il discorso intorno alla voce. Credo che ci sia ovviamente anche una componente genetica. Poi, insomma, non a caso ci sono delle scuole, ci sono delle scuole, sì, di recitazione. Sì, ma si può imparare. In Italia forse con non so neanche se è stato un bene o è stato un male, insomma, ma noi ci abbiamo, in particolare nella cinematografia, noi ci abbiamo una formidabile tradizione legata ai doppiatori. Sì, no? Sì, si doppia in tutto il mondo e siamo i più bravi del mondo, questo sì, bisogna, da parte dei paesi anglosassoni. Che attenzione, questo ci ha permesso di essere, conosciuti. Fruibili. Sotto ogni punto di vista, sì, però siamo anche un paese che facciamo fatica in assoluto a parlare l'inglese, cioè se tu vai... Quello dipende dalle scuole pure, Giovanni. Sì, bravo. Se tu vai, sì, certo, però se tu vai all'estero, sicuramente hai più facilità di trovare un soggetto col quale tu interloquisci subito in inglese. Certo. Noi abbiamo abituato intere generazioni a vedere dei film che sono stati doppiati, e certo, tu sai perfettamente che questa cosa succede solo da noi, per cui, come tutte le vicende, c'è un pro e c'è un contro. Però c'è una componente genetica, c'è una componente di formazione, c'è una componente ovviamente tecnica, che sono fondamentali. Aggiungo che secondo me è altrettanto importante, oltre alla voce, l'aspetto della fisionomica, cioè nel senso, vedi delle persone che magari parlano anche bene, però sono scomposte, sono scoordinate, sono irregolari nei movimenti, mentre parlano non so, parte un braccio che è sbagliato. Comunicazione non verbale, no? È quella, è un disastro. Sì. Adesso, io non so se... Però è così, però è una componente che pure quella tutto sommato... Però si può studiare, ad esempio nei paesi del nord Europa il coaching sta già nelle scuole e nelle medie, nel senso insegnare, noi nasciamo con uno strumento che è quello della nostra voce, che spazia dalla testa fino a sotto, eccetera, e lo insegna. Lo sapevo, vedi? Questo è proprio uno strumento, nasciamo con questo strumento, col sassofono, e non lo sappiamo suonare. Oppure l'italiano, come abbiamo parlato con la ministra Fedeli, dico, ma si può insegnare soltanto la grammatica italiana, ma anche l'italiano? Con tutto rispetto, mantenendo i nostri ruoli, cioè io sono romano, quell'altro è che se andiamo napoletano come Gerardo, si mantiene, perché quelle sono lingue, ma poi uno si interfaccia con l'italiano e non lo sappiamo parlare, perché a Roma fa parlami dei Garibaldi, allora Garibaldi nasce nel 1800, capito? Diventa sta storia qui, invece se può fare, si può fare. Va bene, Giovanni, senti, è stato un assaggio per salutarti, farti gli auguri di Natale e fartelo fare ai radioascoltatori. Volevo sottolineare l'uomo Malagò, perché lo conosco e perché lo stimo, e non soltanto io, e ci tenevo, grazie, insomma, e veramente poi... grazie, troppo generosi, non no, lo no, merito, no, no. Buon Natale. E poi ti rifaccio anch'io gli auguri di Buon Natale, perché gli auguri di Natale fatti da un pino, caro Giovanni, valgono qualcosa di più. Esatto. Felice 2018 a tutte le persone che sono lì con te e a chi ci ascolta, e veramente, anche a te e a tutto lo sport italiano, parlando, esatto. Ciao, grazie. Giovanni, un abbraccio alla famiglia, grazie a voi. Dell'invito, per carità, grazie a te la disponibilità. Era Giovanni Malagò, il nostro presidente del CONI, però ci tenevo perché lo conosco dietro le quinte ed è un uomo veramente che, quando è di fronte anche alla gente, mi piace il suo modo di parlare, come si mostra, e la sua sincerità intellettuale mi piace. E allora, caro Gerardo Di Lella, eccoci. Visto che sei qui, hai portato un pianoforte. Ma io dice porto la pianola, ha portato un pianoforte di 4 metri quadri, cioè... Che mi fai sentire? Non ci sono i 71 elementi di orchestra che avrai il primo gennaio alle 19 all'Auditorium Parco della Musica. Però mi fai sentire? 88 tasti. Sì, però insomma, ovviamente l'orchestra, chi ti ama e ti conosce. Beh, certo. Senti, hai messo il manifesto pure in camera da pranzo da me, ti sei reso conto a Roma? Anche Anna Laura ce l'ha in cucina il manifesto, sì, tuo. Sì, quasi, ce l'ho sotto casa. Cioè, non sapere che tu il primo gennaio stai all'Auditorium Parco della Musica, non so il mio amico che viene da Torino. Ma porto uno a Milano. Sì, no? A Milano. Ci vai a Milano ogni tanto. Beh, però c'è sulla freccia di Trenitalia, quindi è arrivata anche a Milano. Capito. Gerardo, che mi fai sentire? Il postino? noi ce l'abbiamo. Siccome quest'anno, ahimè, c'è stata una scomparsa significativa nel panorama dei musicisti, di compositori di cinema, non potevamo non fare un omaggio al grande maestro Luis Bacalov. Certo. Ho preparato tre pezzi per lui. Django, che è un film di Sergio Corbucci. Io ho doppiato quello nuovo. Grazie, io facevo Jamie Foxx lì. Poi facciamo La città delle donne e Il postino. Mm-hmm. E quindi, insomma, un saggio del postino mi sembrava dopo... Segnalando. Non dopo, adesso. Ok, mi tolgo la cuffia. Va bene, Gerardo, appoggia la cuffia e noi balliamo. No, però siamo tre. Tu ci guardi, Nicola. Signori in diretta, Gerardo Di Lella, eccolo là. Guarda, poi tu mi riporti al cuore il grande Massimo Troisi, con il quale condividemmo tanto tempo della sua vita insieme, perché abbiamo fondato insieme la Nazionale Calcio Artisti. L'uomo pazzesco, grandissimo. Di una semplicità, di un amore, di un affetto, di napoletano fino alla fine. Era proprio pigro, ma perché non faccio altri film, perché non sono stanco, non mi va, ma non lo so fare. Era bellissimo, era una persona straordinaria. Voi pensate che quando mi chiamò lui per giocare con la Nazionale Calciatori a casa, perché io mi lamentai, dico: guardate, io sono un calciatore prestato alla televisione. E c'era Gio Ciampa, che era la sua compagna in quel momento, ospite a Pronto Chi Gioca. Ne parlò con lui, lui mi chiamò e mia madre non ci credeva, ero lui, neanch'io. Poi sono andato a giocare. Pensate alla sua dolcezza. Io non ero famoso, ovviamente. Un giorno dovevamo fare una partita a Nettuno e lui disse: via Pino, andiamo insieme, che io ho girato il film di sera, facciamo il primo tempo e torniamo insieme. Arriviamo sul posto e lui dice all'allenatore, dice: guarda, io e Pino giochiamo il primo tempo e poi usciamo. Allora qualcuno si è lamentato, perché dice: Pino non è così famoso per giocare il primo tempo. Massimo capisce il mio imbarazzo e dice: vabbè ragazzi, torniamo a Roma, no? Non giochiamo. E mi ha riportato a Roma lui, capendo che c'ero rimasto un po' così. Io dico: è giusto, però... Pensa alla dolcezza di quest'uomo, ma questa è una stupidaggine, insomma, però era veramente meraviglioso. Fammi un po' un accompagnamento, vediamo se mi ricordo la poesia di Pablo Neruda che lui dice nel film, soltanto pochi versi. Vado? No, questa qui, sempre del postino, casomai. Nuda, sei semplice come una delle tue unghie, curva, sottile, rosa come nasce il mondo, e t'addentri nel sotterraneo del mondo. La tua chiarezza si spoglia, si sveste, e di nuovo torna ad essere una mano nuda. E continua. Me la ricordo soltanto così, un po'. Chiedo scusa per la recitazione. Grazie Gerardo, tanto sei qui ancora un altro po' con noi, che tu te devi andare a preparare, tu dormi la sera del 31 perché il giorno dopo devi lavorare. Bravo, se ci riesco, perché sto lavorando veramente, è una grande responsabilità. Sì, perché 71 elementi e l'orchestrazione, insomma, non è una cosa facile da preparare. Poi fai una cosa interessante che ci tengo a dire, faccio the best of del cinema italiano, tutti i temi conosciutissimi, c'è Sergio, il maestro Cipriani che viene a fare grande la sua anonima Sergio. Veneziana. Che film, l'hai visto l'anonimo veneziano? Io pianto. Beh, sempre certamente, sì, era una ragazzina. A chi lo dici? Che bello, con Tony Musante e Florinda Volkan. Nicola, qual è il film della tua vita? Il film della mia vita? Dalla tua vita in su, non dalla tua vita in giù. Ma guarda, sono va tanti a periodi. In realtà, sono in realtà tanti. Il Postino sicuramente, per esempio, è stato un film che mi ha segnato particolarmente. Beh, sì, poi comunque uno dei, diciamo, ero il ragazzino, ero abbastanza. Erano tutti ragazzini, andala là qui. Ma non ho capito. Noi eravamo ragazzini, tu ce l'hai già con la prostatite no, forte. Ma quando mai? No, ma è vero, anche c'è una volta in America, che film. Io ricordo Nicola De Carne, perché questa cosa, una parola per Nemo, questa campagna per donare la propria voce a chi l'ha persa, perché stamattina da SLA e lo voglio urlare da questi microfoni, poi cercheremo anche insieme a Anna Laura, sono molto contento che è qui, per convincere i nostri amici e colleghi a donare l'intera voce a questi malati che parleranno. Ma come, c'è un hardware, un software, come avviene? Perché noi vediamo Stephen Hawking, no, che parla con quella voce metallica, a parte già il fatto che riesca a parlare solo con gli occhi, cioè, come succede, come si fa? Allora guarda, succede che questa è una malattia che piano piano degenerativa, ti priva delle tue funzionalità. A un certo punto perdi la voce e cominci hai questa opportunità, perché comunque è un'opportunità, di usare il comunicatore. Lo piloti attraverso gli occhi, come Stephen Hawking. E come fa a sentire io questa cosa? Io già il problema non è la voce a capire robotica. Come al telefono, come fa uno a rispondere dall'altra parte. Io già ho sto problema. Il problema è che ovviamente è un sintetizzatore, quindi è una voce robotica. Tu prima hai detto delle cose meravigliose sulla voce. Ovvero l'importanza della voce crea la personalità, no? Certo, buona parte certo. della voce, eppure ognuno di noi ha un rapporto conflittuale perché non siamo abituati a sentirci, a risentirci, e tutte le volte è veramente terribile quando ci si risente, no? a parte te, voglio dire, ma tutti... no, anche loro, anche i doppiatori, anche a noi, volte quando si risentono non sono tanto felici. Ecco, senti che vocetta che c'hanno là, ecco. e quindi a questo punto da lì appunto questa idea su cui stanno lavorando i nostri colleghi, ci tengo a precisare i colleghi che loro sono loro gli eroi, i supereroi, no? Perché stanno sì, ricordiamoli, insomma, tutti insieme agli pazienti SLA, ai bambini certo, SMA certo. tutti i giorni, e fanno miracoli tutti i giorni. E quindi, proprio perché sì, è vero, questa è una malattia che ti porta via tanto, ma non ti porta via tutto, ed è importante lavorare sulla qualità della vita di queste persone. Una volta che hai incontrato la malattia, certo. Assolutamente. E quindi a questo punto è venuta questa idea in mente, su cui stanno lavorando un gruppo anche all'estero, del voice banking, cioè quindi creare delle banche dati vocali, certo. per sostituire l'intonazione della voce in questi computer, quelli che sono dei computer sostanzialmente. Quindi immaginiamoci, anche rispetto a quello che hai detto tu prima, cosa significa per un paziente SLA poter ricominciare a parlare con una voce, con tonalità umana. È possibile, prima che perdano la voce, registrare la propria voce, ma come sai bene che lo fai di mestiere, certo, è complicatissimo. Certo. Complicatissimo. Per cui questa idea appunto del voice banking. Siamo partiti da un piccolo esperimento sociale, da cui è nato il video dell'iniziativa. Che, di dove si può trovare, che a me mi ha sconvolto quel Guarda, video. Il video lo si può trovare facilmente su YouTube, sulla nostra pagina Facebook, Centro Clinico Nemo. Centro Clinico Nemo. Ed è un video che spiega subito, cioè nel senso sono queste cinque persone, non sanno cosa stanno facendo, gli vengono registrate delle voci, delle parole, dopodiché improvvisamente incontrano Francesco. Francesco, questo paziente SLA, con una storia straordinaria, un ricercatore, se non vado errato un bioricercatore, che peraltro ha lavorato con la Rita con la professoressa Rita Levi Montalcini, alla molecola che poi ha dato il Nobel alla professoressa, fino a quando 4 anni fa è stata diagnosticata la SLA. Questo non gli ha impedito di fermarsi, e quindi addirittura ha accettato di far parte di questo spot in cui a un certo punto incontra queste cinque persone e parla queste cinque persone attraverso la loro voce. Esatto. L'incontro è stato sconvolgente, veramente sconvolgente. Io ero presente. È una sorta di candid camera rispetto a queste persone. Dice, sì, dobbiamo dare le parole, ma perché? Si alza questo schermo e c'è questa persona che vi ringrazia con tutte e cinque le loro voci, li ringrazia per avergli donato la voce. C'è uno spot, l'abbiamo scaricato, vedo, c'è uno spot radiofonico. Sì, sì. E lo ascoltiamo un attimo. Ciao, mi chiamo Francesco. Non sono un robot, ma una persona vera. Parlo attraverso un computer perché ho la SLA, una malattia neuromuscolare degenerativa che mi ha portato via anche la voce. Ti chiedo una cosa semplice, ma bellissima. Donami una tua parola. Perché assieme a tutte le altre parole donate aiuterà a ridare ogni malato di SLA parte della sua umanità. Scarica l'app Nemo My Voice e registra la tua parola. Insieme ridaremo una voce a chi non ce l'ha più. Eccola, qui c'era Rossano Mazzotti, Buffon, Vialli, Iacchetti, Ilaria D'Amico, Massimo Mauro, Simona Ventura, Andrea Michele di Radio DJ, il Trio Medusa, Alessandro Gattina, insomma... Abbiamo avuto tantissime partecipazioni. Ma non si può, però adesso entriamo in campo prepotentemente noi. I professionisti. Entrano in campo i professionisti, tu pensa a quelli che c'ha la voce di Luca Ward, e chi lo sopporterà più Luca Po? Questo che dice al mio segnale, scatenate l'inferno, lo dice sempre come un tridottorio, dirà, capito? Assolutamente. Può essere veramente una cosa molto bella. Adottiamo le cose, secondo me, nella beneficenza non serve fare queste cose gigantesche. Uno a uno, tu miri quella persona che c'ha freddo, gli dai il tuo maglione, la guardi, la copri. Se facciamo questo, è fatta. Assolutamente. È fatta. Non serve massificare, mandare 3.000 sms. Sì, il solidale serve, poi bisogna capire che cosa gli è arrivato, che non gli è arrivato. Non voglio aprire qui questa diatriba, ma così lo sai. Io do la voce, Pino dà la voce a Mario Rossi. Antonio dà la voce a quello, Luca da quella, Emanuela, insomma, e si mira. E poi se abbiamo vicino anche le case di grandi distribuzioni internazionali come supporto, senza, qui non c'è bisogno dei soldi, c'è bisogno di cuore, di c'è voce, bisogno e basta, di cuore. Esatto, basta, c'è bisogno di voce, non ti chiediamo voce, soldi a nessuno, assolutamente. Diamo voce alla voce, santa miseria. No, ma quello... io sono sicura che parecchi vero tuoi colleghi aderiranno, se no glielo tu se basta no un tuo sguardo. Esatto, non è che Anna Laura è tenera, non crediate, fa paura quando sta dall'altra parte del vetro. Anche perché Pino, dare la voce significa tante cose, significa anche dare, dare l'anima, la visibilità, dare tutto, dare tutto te stesso, e dargli una dignità, dargli una dignità. Esattamente, esattamente, sì. No, è bellissimo, sono molto felice. Senti, come vogliamo chiudere questo blocco, perché poi cominciamo fra un po' anche i provini. Io ovviamente ringrazio ancora Lele Mora che mi ha permesso di incontrarvi. Assolutamente sì, ringraziamo davvero. Perché da un incontro ma chiamato, è nato dice, una roba... Senti, una cosa di beneficenza, ho fatto no Lele, ti prego, beneficenza ne faccio già tante, aspetta, fammi finire. Ha spiegato, ho detto, mi ricordo. Che miseria, no? Perché io non lo dico quello che faccio, perché sennò piace, non lo, da mille anni. Certo. Ero veramente piano, perché io sono dell'idea che bisogna seguirle con quotidianità le cose. One shot and go a Natale, andare all'ospedale, dare una pacchetta sulla spalla a qualcuno, non mi piace. Con tutto il rispetto di chi lo fa, e va benissimo che lo faccia. Io voglio farlo gli altri 364 giorni. Sì, no, guarda, se posso dire, mi ricordo ancora quella quando mi disse chiamiamo Pino ma per fare un videomessaggio, come certo, lo stanno certo facendo moltissime persone che stanno supportando. E poi da questo invece mi ricordo ancora la tua telefonata, sì, quando mi dissi va bene, videomessaggio va bene, ma dai, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Fantastico. No, assolutamente. Dilella! Che facciamo? Facciamo Fumo di Londra, ti va? Che bello, piccione. Mancano pochi secondi, facciamo nel prossimo. Ah, possiamo andare? Vai, vai. Vado. Vai. Canta anche 10 cantanti, ma se famo manca niente, Anna là, 71 elementi d'orchestra, 10 cantanti, Gerardo Di Lella, che la parte migliore sua è di spalle, fortunatamente non lo vedi, poi è bell'uomo, ma sarà sempre di spalle mentre dirige.

attraverso già Radio 24, già hanno avuto una possibilità comunque di farsi conoscere giovani di tutta Italia, e siamo arrivati alla finale, questi sei giovani bravi, ovviamente all'ultimo sono tutti molto bravi, almeno per quanto possiamo giudicare noi, ed è arrivato il momento di dare la possibilità a due di loro, ma già il fatto di farsi sentire da Anna Laura vuol dire che anche se non vinci per questo film, magari c'è la possibilità di entrare a far parte di un altro cast. Noi stiamo alla ricerca, no, Anna Laura, sempre di voci nuove. Assolutamente, è molto importante che ci sia un po' di ricambio, cosa che a volte manca, perché è difficile per chi non è già addentro per questioni familiari, per legami familiari o per, a volte per caso, entrare in questo mondo. Quindi noi abbiamo bisogno di voci un po' diverse, un po' più naturali, un po' meno impostate, perché... D'accordo, sono molto d'accordo con esatto, te. Per quasi... no, esatto, no, ma tu sai fare tutte e due, ringraziando Dio, però sì, il fatto sì, è che se leggerezza. Tu senti i film americani sono mediamente molto parlati, quindi non ci sono attori che hanno un'impostazione, quindi se tu non stai facendo un film in costume oppure che ne so una cosa certo, particolarmente un periodo storico, seria certo. Ovviamente le persone di strada parlano come parliamo noi tutti i giorni, quindi esatto. non hanno impostazione, buttarla e come si dice in esatto, tecnica come buttarla. Si dice tecnicamente buttata via, e purtroppo il nostro mondo del doppiaggio, un po' per via anche della televisione, che i doppiaggi televisivi hanno dei tempi talmente stretti che non c'è tempo di... neanche di guardare l'immagine. Di curarli per bene, e quindi diciamo abbastanza standardizzato su un certo livello che non è quello delle persone normali e non rappresenta il livello di tutti, quindi è ovvio che un poliziotto non può parlare come un professore universitario, certo. oppure... Per cui l'adattamento già da lì parte l'adattamento, tutto. L'adattamento, ma anche il modo di porgere, fermo restando che dobbiamo parlare tutti in italiano, ma c'è modo e modo. Capito com'è Anna Laura? Così sono le premesse quando si comincia a doppiare un film. Ma è giusto che sia così, infatti. Però adesso ecco, bisogna fare questa analisi che sta facendo Anna Laura, è giusta, cioè ci arrivano delle cose il lunedì e il venerdì vanno in onda, allora il rischio è quello. Poi secondo dove capitano, perché... qui a Roma bene o male c'è un'esperienza e una tradizione, già a Milano e Torino c'è un altro tipo di tradizione, per cui senza nulla togliere i colleghi, e ce ne sono altri bravissimi in tutta Italia, assolutamente. Però ecco, questa rapidità porta l'adattatore e il traduttore a sbrigarsi ad adattare, al doppiatore, al direttore, all'assistente a sbrigarsi ad andare a sinca perché dobbiamo fare 100 righe invece che 50, e rischi che parli come parli e non stai a sentire come l'ha fatta lui. Presentati, amico mio. Buon pomeriggio a tutti. Allora. Abbassa un po' il microfono, ecco. Okay. Allora, eccolo. Io sono Riccardo Burbi, ho 23 anni e vengo da Perugia. 23 anni, c'hanno tutti 23, che età brutta, cioè, tutti perché 23. È brutta? No, è meravigliosa, lo so, io so che è bellissima, e per quello che è brutta. Per noi? No, esatto, va bene, loro sono così. E poi non, questo ricambio non c'è nessun problema, perché tu non farai mai i personaggi che mai, faccio mai. Io, per cui pure se sei bravo, io sono contento uguale, vero Anna Laura? Vabbè, questo detto scherzosamente. Ma certo. Cosa ti sei preparato quest'oggi, amico mio? Ho portato un pezzo tratto da un film che si chiama 500 giorni insieme, con Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel. Lo conosco poco, non so okay. che film è, però vabbè, meno okay. male, almeno serve musica di sottofondo? No, niente musica. Ok, fermati okay. con la poltrona e vai, presentati, nome e cognome e parti. Okay. Sei qui tanto, chi decide è di fronte a te stavolta. Perfetto. Riccardo Burbi, 500 giorni insieme. Scusate... posso dire la mia sulla pubblicità del gatto? Ecco, è davvero... Oh, Ronda, niente di personale, sia ben chiaro, ma... è davvero una stronzata, ok? Non avere esitazioni, ce la puoi fare, sono tutte bugie, siamo dei bugiardi. Anche lei. Perché la gente compra i nostri prodotti, non perché vuole dire quello che prova. Ciò che la spinge a comprarli è che non riesce a dire quello che prova o ha timore di farlo. Il nostro lavoro consiste solo nel toglierla dall'imbarazzo, ma io vi dico che è ora di dire basta. Guardiamo l'America negli occhi, o almeno lasciamo che si esprima con parole sue. Ci state? Insomma, prendiamo questo, con tanti cuoricini. So già dove vuole andare a parare. Sì, un buon San Valentino dal tuo principe azzurro con infinito amore. Ditemi voi se non è un imbroglio. Ecco di cosa parlo. Non sapete nemmeno che significhi amore. Tu lo sai? E tu? Sono questi cartoncini, le canzoni, il cinema ad alimentare la grande bugia. A spezzare il cuore alla gente. E noi ne siamo responsabili, eh? Io sicuramente. La verità è che facciamo un lavoro sporco. Noi impediamo alla gente di dire quello che prova. Quello che prova davvero, non gli sciocchi stereotipi che qualche furbastro gli ha messo in bocca. Parole come, ad esempio, amore. Che non significano niente. Scusate, ho abusato della vostra attenzione. Mi dispiace, me ne vado. Bene. Bene. Ok, hai ricevuto... Beh, adesso ovviamente io sono molto contento di come stai portando. La tua naturalezza, cioè, mi sembra un ragazzo molto naturale, nonostante i 23 anni, abbastanza maturo come vocalità. Sento delle intonazioni abbastanza... Nuove, fresche o vecchie? Un po' e un po'. Beh, qualcuno... Però capisco anche che per chi hai dentro le orecchie, esatto, la normalità del doppiaggio, quello che sente tutti i giorni, poi deve costruire certe la cose propria personalità. Gli rimangono un attimo nelle orecchie. E come hanno fatto il proiettile al centro sperimentale, mi hanno detto: questo è l'avia, no, è Schiller. No, no, hai fatto Gabriele l'avia, amico esatto, mio. Questo è Proietti, perché... ma veramente Roberto Leri? No, è Proietti, l'ha fatta come Proietti. Ho detto: lo so, esatto, ho 20 anni. Avevi quel, esatto, quel suono nelle orecchie. Però bene, senti, facciamo questa piccola improvvisazione che chiediamo. Dimmi Mauro, puoi parlare? Mauro Meconi questo sta qui. L'abbiamo proposto noi questo testo, non Vicino è stato mio. Preparato, gliel'abbiamo consegnato poco. È Mauro Meconi che sta parlando, il mio riferimento autorale. Ok. E anche come amico di vita. Grazie, insomma. Pino. Nonché fidanzato, vabbè, ma questo è un scherzo. Ci abbiamo 12 figli in due. Va bene. E questo è Don Juan de Marco. Johnny Depp, non so se era qui Riccardo Rossi oppure Boccanera. Boccanera, uno dei due, sì. Ogni tanto se lo alternano. Vai. Okay. Non tutto, ovviamente, 20 secondi. Non approfitto mai di una donna. Dono alle donne piacere, se lo desiderano. E va da sé che è il più grande piacere che potranno mai provare. Ci sono alcune donne dall'aspetto incantevole, con una certa qualità dei capelli, la curva delle loro orecchie che si prolunga con la rotondità di una conchiglia. E queste donne hanno le dita sensibili come le loro gambe. E i polpastrelli provano le stesse sensazioni dei loro piedi. Va bene, stai cercando di eccitarci, smettila, dai. Va bene. Beh, era Riccardo Rossi in questo film, mi dicono dall'altra parte, la nostra capo redattrice di se stessa. Che lei ogni tanto trova delle cose, a parte questa che è di pubblico dominio, ma altre cose che magari nessuno sapeva, le tira fuori all'improvviso. Caro Burbi, dica. Sei stato il primo, hai aperto le danze di ho questa... Rotto il ghiaccio. Hai rotto il ghiaccio, ma soltanto quello tranquillo. Grazie. Adesso toccheranno i tuoi colleghi, però resta qui intanto 2 minuti ancora per continuare questo blocco e continuo. E Anna Laura, è un bel lavoro, però tu lo fai con grande amore e con grande forza e giustamente pretendi questa grande sincerità da parte di chi sta dall'altra parte del vetro e di chi sta vicino a te come direzione. Beh sì, io penso che è un lavoro che è molto bello, è complicato, ma richiede molta passione. Tanta. Richiede anche ovviamente una preparazione tecnica, un orecchio naturale che non tutti hanno purtroppo, ma è così, insomma. Poi i film vostri sono stati mi molto importanti. Mi spiace che Gerardo è andato via, ma insomma lui ne saprà orecchio, qualcosa. Orecchio assoluto. Voi quest'anno come Warner c'è Dunkirk che sta avendo grande soddisfazione in Italia, anche agli Oscar. Bene, ma Dunkirk sì, è il nostro diciamo fiore all'occhiello per quanto riguarda i film di qualità, però... Anche lì il doppiaggio è stato complicato perché poi arrivano delle versioni qui da doppiare in bianco e nero, si vede poco, si sente male. No, si sente sempre bene, il problema è quello che si vede perché ovviamente hanno paura certo che possa alcuni registi sono molto sensibili al problema pirateria, certo. La possibilità che esca qualcosa. E quindi, però il film a voi ve l'hanno fatto vedere prima. Noi il film l'abbiamo visto, io il direttore, certamente. Marco Mete, vero visto. Se non sbaglio? Sì, Marco Mete. E l'abbiamo visto, quindi poi siamo andati un po' a memoria, certo, perché sì, ovviamente si vedevano solamente le teste, però non è la prima volta che lavoriamo in questo modo. No, poi tu con la guerra sei abituato fra Batman e quant'altro. Sì, esatto, tra Nolan e tutto scuro e chi altro. Esatto, ma adesso c'è un film che mi dicevi che alla quale sei affezionata, che di James Franco, si può dire, un bel sì, film. Sì, sì, è un film che ha parecchie candidature anche ai Golden Globes e devo dire è un piccolo film commercialmente parlando, però è un film geniale. Si intitola The Disaster Artist ed è una storia ricreata, una storia, la storia vera di come è stato realizzato quello che è considerato il più brutto, il miglior più brutto film di Hollywood. Oddio, no. Che si intitolava The Room negli anni '80. Una sorta di Ed Wood che fece Tim Burton con Johnny Depp. Esattamente, come no. Sì. Devo dire, è un film delizioso e James Franco dà una performance assolutamente Ma lui è eccellente. Molto intelligente, è una persona in gambissima, siete esatto. Molto brillante in tutto e per tutto. Hai capito, amico mio? E poi che altro avete adesso in questo momento, Laura? Beh, tante adesso cose. Abbiamo film italiani in uscita, Poveri ma ricchissimi, e poi c'è il film di Ospetek a fine mese, sì. Napoli Velata. Io faccio io sempre i trailer a Ospetek, che è un mio amico Ferzan, sempre, perché porta, quando lo faccio io incassa bene, lui dice. Ho detto no, Ferzan, il film è bello come li fai te in casa, non è la mia voce, però è un caro amico, una cara persona, per cui gli ho fatto Napoli Velata. Io ho messo dentro un po' di dolciume, un po' di doppiaggese, in amicizia totale. Carissimo Burbi, toccherà un altro tuo collega. Bene. Tu resti con noi ancora quanto puoi, Nicola Di Carne, perché noi ogni tanto buttiamo un'altra pillola di questa, regala la voce a queste persone che l'hanno persa grazie a questa bellissima intuizione tecnico-medica e quant'altro, ma hai trovato due esponenti come me, Anna Laura, e siamo due cagnacci, per cui qualcosa succederà. E voi rimanete con noi, signori, abbiamo appena cominciato. Voi sanatomi, a tra pochissimo. Voi sanatomi. Bentornati, signori miei. Avevo deciso di andare un attimo, essendo un essere umano, essendo in diretta, sono le 14.45 e 47 secondi, avevo deciso di dare un senso alla mia fisicità idraulica, ma non ci sono riuscito. Insomma, sentite il fiatone, non perché chissà che cosa stia facendo, chissà che cosa mi sto facendo sotto. E va bene, è anche questo. Aspettiamo i vostri sms, cioè qualcuno dice sono problemi di trasmissione, non si riesce a seguire Voice Anatomy oggi. Non lo so, non credo, spero di no, insomma. Il nostro numero lo sapete, 349-238-6666. Bravo Pino, complimenti eccetera, va bene, grazie davvero. Io sono sempre qui in compagnia di Nicola Di Carne, prima di far entrare un altro ragazzo che si cimenterà, o ragazza, questi sei finalisti di questo contest. Sono molto orgoglioso di dare questa possibilità ai ragazzi di tutta Italia. Sono emozionatissimi. Sì, ma che bello. Guarda, io credo, Nicola, che quando perderai questa emozione, come ce l'hai tu, ma non l'emozione di stare per radio, l'emozione di fare qualcosa a cui tieni. Sì. Quando perderai, come dice il buon vecchio Rocky Balboa, l'occhio della tigre, è finita. Il giorno che io andrò in scena e dirò vabbè, tanto. Il giorno che tu farai un lavoro e non, cioè, lo vivrai con grande semplicità e normalità, è finita. Ma secondo te arriva? No. Secondo me no, a me non arriverà mai. Io ho l'entusiasmo di un bambino da sempre. Cioè, io mi ricordo, mi dicevano 35 anni fa, perderai sto sorriso in sala. Io non l'ho mai perso. Non l'ho mai perso, perché mi sveglio ogni mattina col sorriso e uno dice ma che te non c'hai problemi. No, ci abbiamo tutti i problemi, vi posso garantire, di tutti i tipi. E allora bisogna affrontare la vita sempre in questa maniera, soprattutto poi tu che sei a contatto, anche tu, con chi la vita veramente gli sta sfuggendo per le mani e la rincorre. La rincorre nonostante non possa camminare e non si arrende. E questo è meraviglioso. Esatto, il concetto di resilienza. Con chi stai lavorando in questa cosa? A parte tutte le persone, i medici, i tecnici, eccetera, sono i tuoi colleghi che sono all'interno. Leggo che c'è anche Alberto Fontana, che è il presidente del Centro Clinico Nemo. Insomma, sono straordinaria. E lui dice: la voce rappresenta la nostra unicità, come un'impronta digitale, il nostro timbro vocale ci caratterizza e ci differenzia da chiunque altro, così come siamo abituati a riconoscere gli altri dalla loro voce senza rendercene conto. Per questo vogliamo prenderci cura dei nostri pazienti, ai quali la malattia ha tolto la capacità di comunicare con la propria voce. Il nostro sogno è di raccogliere un intero vocabolario di parole di cui è ricca la nostra lingua italiana, ma non gli daremo tutte. Sarà un lavoro meglio che fai i cosi dei macchine. Se vai sempre dritto e gira a destra, eccetera, no? Il navigatore con le voci dei doppiatori, ecco lì si può guadagnare. Se vogliono lanciamo questa app, ma ci devono pagarli. Qui no. Cerchiamo di recuperare dall'altra parte. Voi che fate i navigatori, no? Esatto. Ma non vi piacerebbe una voce che dice: siete arrivati a Piazza Indipendenza, ora scendete dalla vostra macchina e andate al 56, perché insomma sarebbe bello, no? E uno non scende più dalla macchina, voi, però. E che bello, però. Io pure, però. Però qui si paga, Udimo, su, qui si paga, ci mettiamo d'accordo. Lì no, lì è gratis. Signorina Bellussi. Buongiorno. Ormai ho imparato i vostri nomi, perché insomma vi vedo da un po'. Quanti anni hai, Bellussi? Ho 24 anni. E basta con st'età. Sono voci nuove, sono giovani, Pino. Ho capito. Anche una ragione. Ma non ci riesco. Sono settimane che non me ne faccio una ragione. Guarda, mi dico, perché lei... Beh, lei ha fatto così. Ma che lei... Perché mi dai del lei? Io ho 27 anni. Come ti chiami di nome, Bellussi? Selena. Anche a me danno del lei, comunque. Perché? Molto spesso. Non lo so. Ma c'è la bambina, c'è la so, tua età. Però capita. Cara Bellussi, tu che mi hai portato di nuovo? Ho portato un monologo di Million Dollar Baby di Hilary Swank. Hilary Swank. Ah, bellissimo film. Sì. Tu di dove sei, Selena? Io sono di Treviso, ma adesso abito a Roma. Ok, già sta dicendo sono libera io lunedì al primo turno. Sto a Roma. Ma Roma dipende dove, pure via dei medaglie d'oro sto. Fai qui vicino alla Sefi. Anch'io. 2 metri da lì. Meglio domani sono lì, poi a proposito. E per cui sei a Roma, però lei sei, non parli più neanche un po' così, no, neanche no. Con i tuoi? No, a parte che non sono mai stata capace di parlare veneto, quindi... Come ti hanno insegnato a parlare? Da bambina sei nata in Veneto? No, non ho mai parlato dialetto stretto, diciamo, un po' di cadenza sì ce l'avevo, però il dialetto non l'ho mai parlato. Perché mamma e papà non parlavano dialetto? No, mi facevano parlare italiano, giustamente. Meno male, mia nonna era calabrese e non l'ho mai capita, per cui non riuscivo a parlarlo perché non la capivo, nonna. E allora hai portato questo pezzo di Hilary Swank. E allora, musica, cose? No, niente. Niente, così si fa. Così, al naturale. Tranquilla, ti stai giocando soltanto il futuro, vai. Ok. Questo per tranquillità. Li devi mettere, Anna Laura. Li devi mettere al loro agio. No, devi fargli tagli, se superano anche quello, è fatta. Cioè, c'è te davanti. Io che gli rompo le scatole in questa maniera, se supera questo, ha vinto. Ok. Vai. Selena Bellussi, Million Dollar Baby. Compio 32 anni, signor Dan. E festeggio il fatto che ho passato l'ennesimo anno a lavare i piatti e a fare la cameriera. Cosa che faccio dall'età di 13 anni. E secondo lei dovrei compierne 37 prima di diventare un pugile decente. E dato che è un mese che tiro pugna a questo sacco veloce senza risultati, comincio a rendermi conto della verità. L'altra verità è che mio fratello sta in galera. Mia sorella truffa la previdenza sociale fingendo che suo figlio sia ancora vivo. Mio padre è morto e mia madre pesa oltre 140 kg. E se dovessi ragionare a mente fredda, dovrei tornare a casa, trovare una roulotte usata, comprarmi una friggitrice e dei biscotti. Il problema è che mi sento bene soltanto quando mi alleno. Se sono troppo vecchia, allora non mi resta niente. Le basta come spiegazione. Ok, a noi ci basta come esposizione. Brava. Grazie. Allora, fresche, sono... Sì, è una voce molto interessante. Hai capito? Non me l'ha mai detta a me, Anna Laura, questa cosa. Ha detto tanto sì e se ne andò. C'ho una cosa molto più interessante da fare a dire. Interessante lo disse in questo caso. Sì, non è male, non è male, okay. Davvero. Beh, ma chi è arrivato fin qui un minimo di dizione, di rapidità, di intonazione, insomma, se no facciamo una figura veramente barbina. Non era il caso. Tu quant'è che studi per fare questo mestiere? Io ho fatto un'accademia teatrale per 3 anni qui a Roma, mi sono diplomata a giugno e ho fatto anche 2 corsi di doppiaggio. Con Claudia Catani, mm-hmm. Pasquale Anselmo, Francesco Vairano e Rita Savagnone. Beh, niente, sì, sti nomini, vabbè, insomma, ti hanno dato qualcosa. Improvvisiamo su questo pezzo di Elizabeth Town, proprio 10 secondi, tanto per capire come ti trovi. Cambia anche un po' i toni, anche se non segui la realtà del film. Che non ho visto comunque. No, esatto, bellissimo. Okay. Vai su dei colori anche così. Va bene. Cambia. Sono un po' nervosa, ma eccoci qua. È passato del tempo. Ci sono più silenzi che parole in un lungo matrimonio. Tartaglia un po'? Noi eravamo completamente opposti e ha funzionato. Il piano era quello di mandare mio figlio a rappresentare la famiglia. Arrabbiati. Ero terrorizzata all'idea che mi avreste guardato ancora come quella donna della California che se l'era portato via. Stupida. Anche se la nostra famiglia ha vissuto in California solo per 18 mesi, 27 anni fa. Grazie, le faremo sapere. La cosa brutta è quando ti dicono lasci una foto al doppiaggio. Sì. Vuol dire che proprio è l'unica cosa che... Lasci una foto, le faremo sapere. Ma come una foto? A voce? No, a foto. Meglio. Okay. Va bene, Selena. Grazie. Selena, come mai questo nome lunare? No.

casa. I tuoi spazi sono al sicuro grazie al sistema Combivox, che integra le funzioni di antifurto, videosorveglianza e domotica. Scegli Combivox, garanzia di sicurezza made in Italy da oltre 30 anni, e goditi la tua tranquillità. Sempre. Combivox ti protegge, ovunque tu sia. Combivox. Enjoy life. Safely. Combivox.it. Gennaio 2017. Scosse di terremoto, neve, gelo in centro Italia. I soccorritori hanno raggiunto l'hotel Rigopiano isolato dalla neve. Maggio 2017. I temi di questa giornata economico-finanziaria, se dovessero essere altri aggiornamenti da San Pietroburgo, ve li daremo in diretta come abbiamo fatto dalle 14 in poi. Per il momento. Luglio 2017. Paolo Villaggio, scomparso il 3 luglio scorso, che è stato un grande, un grandissimo protagonista. Ottobre 2017. Sai cosa mi piace della vicenda della Catalogna? Caro David, mi piace il fatto che si stanno scannando sul nulla. Cioè, dovremmo godere di questa situazione. Io infatti godo come un pazzo, si scannassero tra di loro. Rivoluzioni, gente in piazza, fuoco, fiamme, Catalogna, confini blindati. Tu sei un bello, di stupendo. Casini. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo. Tutti i giorni. E continueremo a farlo nel 2018. Con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. Buone feste da Radio 24. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, sono le 15 e una manciata di secondi. Siamo sempre qui in compagnia con Anna Laura Carani della Warner Bros. Columbia, responsabile delle edizioni di tutto il mondo. Anna Laura. Magari. Vabbè, non vorrei, no, assolutamente. Dura, comunque, volevo solo quello che dire vuoi, una cosa. Pure due. Spesso sento parlare del fatto che c'è questa nozione errata che solamente in Italia si doppia. Non è vero. No. Doppiano tutti, doppia la Spagna, doppia la Francia, doppia la Germania, doppia la Russia, Portogallo, l'Ucraina, no, il Portogallo no. Ah, non doppia, l'unico che non doppia. L'Ucraina ultimamente ha cominciato a doppiare praticamente quasi tutti i film, doppia la Cina ovviamente, doppia il Giappone, non sempre ma quasi sempre, e più altri paesi asiatici che adesso non so bene, l'India a volte, e chiaramente per i film d'animazione, per i bambini, doppiano praticamente tutti, compresi i paesi scandinavi, la Repubblica Ceca, la Turchia, esatto. Chiunque. Non quindi, è questo che limita l'italiano, no, e l'inglese nelle scuole, è la scuola che insomma dovrebbe fare qualcosa di diverso rispetto. E poi adesso con i DVD, Blu-ray, eccetera, scegli anche tu il tuo modo di fruirne. Anche in televisione c'è la possibilità di sentire l'audio originale, cosa che io faccio spesso. Sì, anche per capire. Se l'emittente lo rende disponibile, basta. Anche perché ti perdi molto, abbassare lo sguardo, rialzarlo, perdi quella conseguenza della scena, l'emozione di quella scena. E il doppiaggio gli ridà intanto la fruizione di un film che altrimenti già così il cinema è difficile da frequentare. E tu pensa a un film non soltanto inglese, ma anche l'inglese stesso, l'americano stesso, certe volte con certi dialetti del sud, dell'Alabama, del Massachusetts, cioè, capisci una parola? A volte servono i sottotitoli anche a noi, sì. Inglese su inglese. E Full Monty non si capiva una parola, non potevi doppiarlo in romanaccio, per ridargli la stessa forza di doppiarlo in veramente in coattissimo. Sì. Ma non è così, serve un buon adattamento. E poi ti ripeto, lo vedi prima doppiato, poi te lo vedi in originale con i sottotitoli e te lo godi in qualche modo. I film giapponesi o cinesi, guardateli, un film turco in originale, o in pakistano o in indiano, bello, senti la verità, la voce eccetera, ma tu senti delle cose che non ti arriva anche come suono. Senti i film orientali, vedo dei suoni completamente diversi, dice, dai nostri. Ti amo da impazzire, ti ha detto, se mettevo la menà, capito, per quanto ci riguarda. E in quanti in lingua originale mi arrivano già delle cose, allora, con un sonorissimo 84% di preferenze e soltanto il 16% per la lingua originale e le altre lingue, questo dice l'Italia, sì, questa è la classifica Netflix mondiale, questa classifica. L'Italia infatti si classifica al primo posto tra i paesi in cui si preferisce guardare Netflix usufruendo del doppiaggio nazionale. 84% e il 16%, insomma. Io faccio parte di quel 16%, ma è una scelta mia ovviamente. Ma come, tu sei responsabile? No. Anche la nostra caporedattrice, vabbè, però è giusto, si fruisce di qualcosa di... e poi te lo godi anche in presa diretta, però che santa miseria. Io parlo con le frasi idiomatiche dei film in inglese, io ho conquistato una, ma pensavo, speravo che non avesse visto Pocahontas, ne avesse visto, l'aveva visto, che lui è un inglese, io ho detto la frase di Joe Smith, mi ha detto, ma è Pocahontas questo? Ho detto, ah sì, ma mi scusi, ho fatto una figura orrenda. Comunque, abbiamo qui una nuova signora, la seconda, la terza, siamo arrivati a metà del nostro contest. Buonasera. C'ha una voce del malesorcista, c'ha giovane ma c'ha la voce di una 64enne. No, dai. No, no, vedrai. Esci da questo corpo. Esatto. Come ti chiami? Quanti anni hai? Sono Paola Barini, ho 33 anni. Ah, un'età importante. Soprattutto a Natale, insomma. Per qualcuno che ci ha avuti prima di te. Non so se tu cammini sulle acque, ma... Non ancora. No, vabbè. Scusate, non voglio essere assolutamente blasfemo, ci mancherebbe altro. Mi chiamo Giuseppe, ma insomma, non sto ancora nel presepe. Di dove sei? Sono nata a Verona, cresciuta a Verona. Abbiamo un po' di nord-est. Un sacco di Veneti, eh? Abbiamo un nord-est, normalmente il sud che si presenta prepotente, qui invece abbiamo avuto una grandissima prepotenza dal punto di vista verbale, non ovviamente di cattiveria, del nord-est dell'Italia. E hai, mi hai detto, 33 anni. 33 anni, sì. 33 anni. Da quant'è che studi, ti prepari in questo mestiere? Da tanto, sì, sì, sì. Ho iniziato a studiare da piccolina a Verona. Ho fatto tanti corsi lì, ho iniziato con un grande regista morto adesso, Ezio Maria Caserta, a cui devo tutto, e ho continuato a studiare qui a Roma. Hai fatto Romeo e Giulietta lì a Verona? No, non l'hai fatto, non mai. L'ho fatto. Ah. Non l'ho fatto, anche se era carina la versione veneta. Di Romeo e Giulietta? Sì, sì. E com'era? E se è Romeo, se tu Berto Romeo. Berto Barbarani, quando Giulietta si affaccia al balcone, fa... Romeo Monteccio, sa feo stare di notte in giro senza compagnia. Si è messo a fare una grappetta prima. Sì, sì, bello. Perché parlano un po' così. Eh sì, che il Veneto è così, è leggero, è rotondo, questa cosa. Va bene, tu non lo fai in Veneto in questo momento, ho tutto rispetto. Perché Assolutamente no. I nostri dialetti sono delle lingue straordinarie, musicali, poi quella vostra è veramente molto musicale. Cosa hai portato stavolta? Ho portato un pezzo tratto dal film Io mi chiamo Sam. Il pezzo di Michelle Pfeiffer. Il film con Sean Penn era? Sean Penn, era, sì. Faceva il bravissimo Massimo Rossi, che devo dire, sempre molto puntuale. Non agli orari del doppiaggio, puntuale come recitazione. Allora, vai. Tu credi davvero di avere il monopolio della sofferenza umana? Allora ti spiego una cosa sulla gente come me. La gente come me si sente persa, e piccola, e brutta, completamente inutile. La gente come me ha certi mariti che si scopano un'altra donna che è molto più perfetta di me. La gente come me ha dei figli che la odiano. E io urlo come una pazza, dicendo cose orribili. Ho un bambino di 7 anni perché non vuole salire in macchina alla fine della giornata. E allora lui mi guarda con una tale rabbia che io lo odio a quel punto. Lo so che ti sto deludendo, io lo so che sto sbagliando con te, lo so che meriti di più, ma sali in quella cazzo di macchina! Ok, è finita. Sì, sì, ci ha lasciato tutti il levare. È salito su quella cazzo di macchina. Vabbè. Speriamo. Scena molto drammatica. Sì, adesso vediamo qualcosa di più leggero. Sì. Anche per te, Elizabeth Town. Non ho mai visto il film. No, è un film che vi consiglio, perché sembra che i piccoli film, invece anche lì è delizioso, con Orlando Bloom, lei non mi ricordo se... Vabbè, comunque adesso me lo dirà sicuramente Rachele, che è la protagonista di Elizabeth Town nelle orecchie. Ormai mi hai fatto dichiarare il fatto che me lo passerei attraverso l'interfono, ogni tanto faccio finta di essere intelligente e ricordarmi tutto. Vai! Kirsten Dunst. Il nome più complicato non c'era, eh? Sì, la protagonista di L'uomo ragno e tanti altri film. Vai. Sono un po' nervosa, ma eccoci qua. È passato del tempo. Ci sono più silenzi che parole in un lungo matrimonio. Alleggerisci. Noi eravamo completamente opposti e ha funzionato. Il piano era quello di mandare mio figlio a rappresentare la famiglia. Ero terrorizzata all'idea che mi avreste guardato ancora come quella donna della California che se l'era portato via. Anche se la nostra famiglia ha vissuto in California solo per 18 mesi, 27 anni fa, io l'ho sempre percepito. È accaduto tutto un giorno che stavo in un ascensore di Tokyo e questo incantevole capitano è entrato e stava tornando a casa, Elizabeth Town, e era fidanzato. E lo ero anch'io e possiamo dire che lo dirottai e lo portai a Disneyland. Ok, ti ringrazio. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Le faremo sapere. stai tranquillo. Facciamo entrare un'altra persona, abbiamo altri minuti, sì. Così poi ci prendiamo durante, quando io intervisterò Donatella Pandimiglio, che ci sarà il penultimo appuntamento del nostro tutorial sul canto, perché noi cerchiamo sempre di fare dei tutorial, come chi fa ginnastica a casa con Jane Fonda. La stessa cosa, sì, insomma, è bello, è divertente. No? Io avrei sempre voluto che qualcuno mi insegnasse come cantare ti bene. Ti scarichi i podcast della nostra come trasmissione. Come usare la voce, come respirare. E no? Quello è fondamentale, tutto lì. Infatti le prime lezioni sono sulla respirazione. Noi non siamo capaci a respirare, caro Nicola, è così, sai. È vero. Non siamo abituati a risentirci, a respirare bene. Infatti quando siamo in tensione facciamo naturalmente quel lungo respiro per ossigenarci, eccetera. Invece andrebbe controllato e si può controllare. E con la respirazione ti salvi anche da tante certe malattie, certe situazioni, ti salva la vita. Non siamo abituati a curarci di noi stessi. Esatto, noi abbiamo questo corpo e poi che corpo, insomma. No? No, c'è una faccia ironica quando mi guardi, non mi è piaciuta. Va bene. Allora, caro amico mio, tu sei il nome e cognome idolo americano, Michael sì. Moretti. Che ti serve? Che è successo? L'audio. L'audio? Sì. Ecco, è emozionato. Moretti, quante pagine ti sei portato di cose? È la copia, in caso ne perdessi una. Magari è venuto preparato. Addirittura la copia nel caso ne perdessi una. Senti, sei in bella intenzione, Michael. Un po'. Mi stai spingendo dei pulsanti, Meconi, e mi hai levato la comunicazione. Michael, rasserenati, io sono un po' esperto di comunicazione non verbale, la tua sta dimostrando orrore in questo momento. Errore. E non voglio, vedo il vuoto nei tuoi occhi, Michael. Quanti anni hai, Michael? 24. Da dove vieni? Orbetello, provincia di Grosseto. So. Sta vicino Tarquinia, per questo lo so. E da quant'è che fai questo mestiere? Mai, no, non l'ho mai fatto. Ah, sei arrivato a culo alla finale, cioè. Non ho capito, no, come è successo, che dimostri di essere bravo. Ho fatto un corso con Cristian Jansante e Roberto Pedicini e... E questo non depone a tuo favore? Scherzo, ovviamente, il piacere di prendere in giro Cristian, che è la voce ufficiale di Radio 24. Ho fatto diversi provini, però insomma ancora è tutto da vedere. Però sei qui e l'hai dimostrato con grande forza e veemenza. E voglio che ci metti la stessa intensità, Michael. Va bene, Michael. Ma com'è Michael? Papà americano? No, è Dolbetello. No, sì. Ah. Era una scelta, non so. Una scelta esotica. Per via del cinema, che gli piace. L'importante è via del cinema, non delle droghe, insomma. Va bene. Michael Douglas, dai. Okay. Che cosa hai portato, Michael? La ricerca della felicità. Ah, ok. Will Smith. Will Smith. Sì. Il nostro amico Sandracello. Vai. Wow, ok. Sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai. Io ero abbastanza negato, quindi probabilmente arriverai, non so, al mio stesso livello. Forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose, ma in questa non credo. Perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok? Dai, un'ultima volta e andiamo. Ehi. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Oggi sei andato sul tranquillo. Mi hai ripresentato con Wolf of Wall Street, incazzato come una iena. Ti ricordi qualcosa di Wolf? Non ce l'ho dietro. Ah, disgraziato. Vai, leggiti Don Juan De Marco. Ok. Oh, dai! Sì. Lo so che uno più dice dai e più l'altro si chiude. Non approfitto mai di una donna. Dono alle donne piacere. Incazzati. Se lo desiderano. E va da sé che è il più grande piacere che una donna potrà mai provare. Ci sono alcune donne, dall'aspetto incantevole, con una certa qualità dei capelli, la curva delle orecchie che si prolunga come la rotondità di una conchiglia. Queste donne hanno le dita sensibili, come le loro gambe. I polpastelli provano le stesse sensazioni dei loro piedi. E quando tocchi le loro nocche, è come passare le tue mani sulle loro ginocchia. Toccare questa tenera carnosa parte delle dita equivale a sfiorare con le mani le loro cose. Va bene, sono ceccidi a tutti quanti. Allora, non ci vedevi bene con gli senza occhiali? È scritto piccolo. Non ti preoccupare, abbiamo delle persone che basta che sentono, vedono palleggiare una persona, ti accorgi se possono giocare a pallone. E poi voi potete farlo tutti, non è l'emozione di un momento che può pregiudicare una cosa. Noi ultimamente ho perso 3 polverini in una settimana, per cui guarda, chi meglio di me te lo può raccontare? Non ci credo. Sì, sì, un paio, tre no, ma un paio sì, si perdono, ma poi ringraziando Dio qui quando perdi un provino lo vince un altro bravo, per cui questa è la realtà, per cui non c'è nessun problema. Va bene, amico mio, io saluto invece Nicola che deve fuggire. Sì. Nicola De Canne, lo ricordiamo, una parola per Nemo, la campagna per donare la propria voce a chi l'ha persa, e noi abbiamo giurato di impegnarci per regalare l'intero patrimonio vocale della nostra vita e della nostra professione. Ci faremo da portavoce io e Anna Laura con i nostri amici e colleghi del doppiaggio, per poi ci metteremo in contatto con voi e porteremo a casa delle cose importanti per continuare a parlare, a urlare, a dare voce a chi non ce l'ha. E io assolutamente ringrazio a nome di Nemo, a nome mio personale, a nome di Nemo, te, Anna Laura, per questa idea, per questo impegno. Non c'era posto migliore, dopo che ho sentito anche tutto questo, per parlare di voce, di parola qua con qua. Te. Non c'era proprio posto migliore, a parte l'imbarazzo mio per questa mia voce terrificante. Non dopo è la così, vostra, non è così, infatti, ma prenderemo te per questo film della Warner. All'ultimo, i ragazzi, ma mi dispiace, avete perso. Nicola, se vuoi farmi guadagnare 8.000 punti con mio figlio, fammi fare quella di Batman e siamo a posto. E lei, dipende da lei. Batman è un po' chiamiamo dura, Santa Maria, dobbiamo litigare Batman con Claudio. No, adesso ormai Batman già è un altro. Rossi, è Ben Affleck, ma Batman che sta male, posso fare esatto, Batman dopo l'incidente quando perdi i poteri. Grazie Nicola, e grazie a Lele che ci ha messo in contatto. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci, stavamo salutando Nicola che stava tornando a casa. Bella questa cosa della voce, vero? Di regalare la voce a chi l'ha persa. Molto bella, è emozionante anche sapere che uno può aiutare chi non può più comunicare, ma che ha un cervello perfettamente funzionante. A tornare a comunicare con tu lo sai che sarai la responsabile di questa cosa? Come edizioni e tutto, lo sai? Di questa cosa di Nemo? Sono affari tuoi, Anna Laura, ormai t'ho lasciato sé. T'ho incastrato, ma lo faccio volentieri. Lo so. Salutiamo anche Thomas Ciampa che ci ascolta. Certo, ciao tutta la che Warner. Ti saluta tanto. L'abbraccio, è grande, anche perché lui, essendo fratello della Ciampa, Joe Ciampa, mia grande amica quando era in Italia, ex compagna del, come dicevo prima, di Massimo Troisi, grazie a lei ho cominciato a giocare a pallone, non dico a fare cinema, ma a giocare a pallone con la nazionale calciatori. Allora, fanciulla, come stai? Bene, voi? Benissimo, bene. Vedo, scritto a mano il provino? Scritto a mano, sì. Tutti scritti a mano, li ho portati. Quanti hai? 13 anni tu? Sì, più o meno. Giovanissima. 24, anch'io. Stanno sempre lì. Sempre lì. Però le vocalità abbiamo cercato di scegliere un po' diversi, vocione, vocetta, vocina brillante, eccetera, per dare una possibilità di una scelta migliore. Poi tutti e sei possono fare tutto, secondo me. Come ti chiami? Mi detto? Federica Russello, vengo da Mirandola, provincia di Modena. Ma quanto mi fa dire che sia da Mirandola? Mi sembra che sì, buongiorno. Sembra una maschera. Va bene. Tu hai qualcuno in famiglia che fa l'attore, no? No, nessuno. Ok, nessuno. Devo chiedere solo quando finisce il blocco, perché me lo scrive a 28, vero? Ecco, scusate, lo dico in diretta, perché così ci regoliamo anche sul minutaggio dei nostri amici. Siamo rimasti in due, tu e... Esatto. E il barbone, che è sempre giovane anche lui. Cosa ha portato stavolta? Non Scrubs, ma? No, Ragazze Interrotte, un pezzo di Ragazze Interrotte, appunto. Interpretato, no, Angelina Jolie. Vero, Ragazze Interrotte, Boys Don't Cry, stavo pensando. Quei film sono usciti insieme sia Angelina Jolie che Hilary Swank, Io sono pazzo di Ravissone. Beh, poi in Ragazze Interrotte c'erano un sacco d'attrici. Sì, c'erano proprio tante. Vero, ci stanno quei film, Rydell, sì, credo. Che sì, lanciano sì, un sacco di persone come Coppola, eccetera. Sono quelle infornate che ogni tanto avvengono. Allora, bella dura, fai la parte di Angelina? Sì, doppiata da Eleonora De Angelis. Hai capito, che salutiamo. E allora vai, ripresentati, okay, e parti. Ok, Federica Russello. Vai. Stavamo leggendo il tuo diario, visto che la tua ultima notte facciamo un po' di salotto, un po' di lettura. Celebriamo la saggezza che ti porterai nel mondo. Cerchiamo di crescere come persone. Carino da parte tua giudicarci adesso che sei guarita. E ora faccio la parte della cattiva, amore. Come tu vuoi. Cerco di darti tutto quello che vuoi. Volevi il tuo fascicolo e te l'ho fatto trovare. Volevi uscire e ti ho fatto uscire. Ti servivano soldi e io te li ho trovati. Io sono molto coerente, ti ho detto la verità, non te l'ho scritta in un diario del cazzo. Ti ho detto tutto in faccia. Anche a Daisy l'ho detto in faccia, quello che tutti sapevano e non dicevano, e lei si è uccisa. E io ho fatto la parte della cattiva, proprio come volevi tu. Perché ti fa sentire buona, piccola mia. Ti fa sentire buona, così puoi tornare qua, tutta dolcezza e luce, triste e contrita, e tutti quanti si torcono le mani congratulandosi con te per il tuo stramaledetto coraggio. E nel frattempo io faccio 3 lavoretti alla stazione per gli stessi soldi che quella aveva nella vestaglia. Ah, è finito, ok. Mi fini di levare. Sì, c'ha, infatti. C'ha una dizione più rapida del mondo. Rapidissima, davvero. No, è facile così. Forse giorno lei per i film, quelli Liller e Laller americani, i college, eccetera, sei perfetto. E perché no? Anche per le drammatizzazioni, ovviamente, di Ragazze Giovani, dove c'è molto fresca. Vai su Elisabetta, okay, anche tu. Sono un po' nervosa. Ma eccoci qua, è passato del tempo. Ci sono più silenzi che parole in un lungo matrimonio. Noi eravamo completamente opposti e ha funzionato. Il piano era quello di mandare mio figlio a rappresentare la famiglia. Ero terrorizzata all'idea che mi avreste guardato ancora come quella donna della California che se l'era portato via. Anche se la nostra famiglia ha vissuto in California solo per 18 mesi e 27 anni fa, io l'ho sempre percepito. È accaduto tutto un giorno che stavo sensuale, in una... Sensuale, vai, sensuale. È accaduto tutto un giorno che stavo in un ascensore di Tokyo, e questo incantevole capitano è entrato. E stava tornando a casa, a Elizabeth Town, e era fidanzato, e lo ero anch'io. E possiamo dire che lo dirottai. Animato, vai. E possiamo dire che lo dirottai e lo portai a Disneyland. Ma a un certo punto è successo qualcosa e non faceva parte del piano. Ci siamo innamorati. Ah, grazie. Grazie, grazie a voi. Sei scarica? No, ancora stai a mille. Sì. È normale, poi l'adrenalina sì, cresce subito dopo. Grazie, grazie a voi. Grazie davvero. Ed ecco il nostro ultimo concorrente finalista di questo contest, non talent, ma contest. La parola talent non è che io l'ami profondamente. No, ormai se ne abusa poi. Sì, sì, no. È un contest, e anche tu giovanissimo, quanti anni Ciao hai? Ciao a tutti, sono Daniele, ho 26 anni, di Roma. E sei figlio di Chevalier? No. Sì, io lo dico sempre, ho sentito, è particolarissima questa voce... Vabbè, ruberai Don Cruise, perché tanto Don Cruise resta comunque un ventenne, vanno avanti, cioè a 60 anni. Ma Cruise. L'hai visto ultimamente? Io vedo sempre non più è in panca. Tanto no, ragazzino, no, no, no, no, no. Pure lui c'ha... Anche lui ha le sue rughe. E santa miseria, non so se si fa il botulino, però sempre c'ha 30 anni. Allora, da dove vieni? Di Roma. Di Roma. Sono figlio di medico, non di... Di medico. Non di doppiatore. Non di doppiatore né attore. Però ti piace questo, da chi hai ereditato questa voglia di fare l'attore? Fin da piccolo, io fin da piccolo mi chiedevano da piccolissimo cosa vuoi fare? Essere attore, quindi... Che miseria, ho 3 figli, non volesse fare uno fa attore, spero l'ultimo, di 3 anni, dico, io sono figlio d'arte, un figlio d'arte, santa miseria, di un padre facile da raggiungere e da superare. Mio padre ha cercato in tutti i modi, fai medicina, però comunque mi assiste, mi ha aiutato. Ti assiste dal punto di vista medico, di delle anfetamine oggi per entrare. Vai. Allora, cosa hai portato? Porto il primo monologo di Hitch, lui sì che capisce le donne. Un altro Sandra Cerbo, sì. Vedi? Un altro Will Smith. Che è un film che mi piace particolarmente. Va bene, anche Meconi annuisce. Ti piace anche a te, Meconi? Beh sì, dai, è una commedia troppo divertente. Eccolo, va bene. Allora, lo sai a memoria perché non vedo foglietti di fronte a te. Sì. Ho capito, può già stupire così, Anna Laura. Vai. Daniele Di Matteo, Hitch, lui sì che capisce le donne. Regole fondamentali. Nessuna donna... Chevalier, scusa. Vai, perdonaci, ma è noi che... Scusa, Chevalier. Il povero Chevalier, secondo me, comincerà a telefonare. Fanno, ma chi è qui? Ma perché? Telefoniamo. Riposate domani, Chevalier. Noi ci sarebbe una percezione. Vai, scusa, ricomincia da capo. Daniele Di Matteo, Itch e Lucy che capisce le donne. Regole fondamentali. Nessuna donna si sveglia al mattino dicendo «Dio, spero tanto di non essere rapita dal principe azzurro oggi». Ecco, potrebbe dire «Ah, è un gran brutto momento per me». Oppure qualcosa come «Ho solo bisogno di spazio». O la battuta che preferisco. Sono tutta presa dalla mia carriera per ora. Voi ci credete? E neanche lei. E sapete perché? Perché vi sta dicendo una bugia. Ecco perché. Ci siamo capiti? Sta mentendo. Regole fondamentali. Non importa cosa, non importa quando, non importa chi. Ogni uomo ha l'occasione di fare il principe azzurro e rapire una donna. Gli serve solo il cavallo giusto. Meno male che non c'è nessuno che mi assomigli. Fu Bianchi mi secondo imita. Me l'hai fatto apposta, hai scelto voci più leggere della tua per evitare la concorrenza dei cinquantenni bravissimi messi fuori alla porta di quanti anni hai? Con la voce bassa via tutti, casa, tutti. Sì, sì, no, li ha scartati tutti quelli con la voce profonda e con la voce anche alta che fanno Yazzi e il mio nome poi fanno anche questo via a casa tutti via. Vai un pezzettino di Don Juan De Marco, sì. Facci sentire Chevalier 40 anni fa, vai. Non approfitto mai di una donna. Dono alle donne piacere se lo desiderano. E va da sé che è il più grande piacere che potranno mai provare. Ci sono alcune donne dall'aspetto incantevole, con una certa qualità dei capelli. La curva delle orecchie che si prolunga come la rotondità di una conchiglia. Queste donne hanno le dita sensibili, come le loro gambe. I polpastrelli provano le stesse sensazioni dei loro piedi. E quando tocchi le loro nocche è come... passare le tue mani sulle loro ginocchia. Toccare questa tenera, carnosa parte delle dita equivale a sfiorare con le mani le loro cosce. Ok, grazie tesoro, grazie davvero. Grazie a voi. Allora, siamo manca un minuto e mezzo, dopodiché Anna Laura con Mauro, Alessia e qualcosa di me si deciderà mentre ci ascoltiamo una puntata con Donatella Pandimiglio. Entreremo nell'ultimo blocco dove si deciderà le due persone che potranno far parte del cast di questo film della Warner, che io ringrazio ancora. Anna Laura, sì, della Warner, state... della Sony, adesso vedremo, Sony. Ma della ne Sony, abbiamo esatto. talmente tanti esatto. che non sarà però problema. Vi ringrazio perché avete abbracciato immediatamente quest'estate. Ho chiamato Anna Laura e ho detto Anna Laura c'è questa idea, le ho detto stavo chiamandoti perché ho avuto un'idea del genere, camminavamo paralleli, poi abbiamo parlato con tutti, siamo stati tutti d'accordo, contenti, anche la radio ovviamente ha ringraziato questa joint venture fare Confindustria, insomma chi meglio di questa radio può dare la possibilità professionale, visto che si parla di lavoro, sì, in certo, questa radio, è lavoro in più, è persone giovani che trovano la possibilità di un parcheggio ottimo, di un ormeggio più di un parcheggio, che poi uno si muove, per cui in bocca al lupo davvero. Allora noi adesso ci ascoltiamo l'intervista, il tutorial nuovo di Donatella Pandimiglio, si deciderà l'ultimo blocco, ripeto, staremo qui tutti insieme e senza troppe inquadrature, non c'è la televisione che si soffermerà sui primi piani, quelle pause lunghe, perché tu per te Radio 24 continua, no? Ste cose cercheremo di evitarle. Tra pochissimo, signori miei, con Voice Anatomy, adesso con Donatella Pandimiglio e subito dopo per decidere chi farà parte di questa realtà e ovviamente chi perderà tutte le possibilità comunque di continuare a sognare per poter fare questo mestiere assolutamente. A tra poco, grazie. Ecco il re. Porta anche tu a tavola un re, il culatello di Zibello Dop, il re dei salumi, unico e inconfondibile come la sua terra d'origine, la Bassa Parmense. I nobili e potenti di un tempo gli hanno tributato onori, famosi poeti hanno decantato il suo gusto delicato e irresistibile. Ricorda, il vero culatello Dop è solo di Zibello. Culatello di Zibello Dop. Buono come lui, non c'è nessuno. Programma di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020. Info su ER Agricoltura. Non preoccuparti, su Amazon.it trovi ancora un sacco di regali per il tuo Natale. Non è tardi per accaparrarti offerte imperdibili in tante categorie. E come sempre, consegna gratuita su milioni di prodotti idonei. Offerte di Natale su Amazon.it, dal 7 al 21 dicembre. disponibilità e condizioni delle offerte e delle consegne su amazon.it. A Natale siamo tutti più buoni. Monge però è buono tutto l'anno. E voi lo sapete. Monge, le sciatte e Special Dog sono alimenti sani e genuini, senza coloranti, conservanti e senza zuccheri. Bocconi cotti al forno, patè cremosi cotti a vapore e crocchette con tanta carne fresca. Insomma, una vera prelibatezza. Il regalo ideale per il vostro cane e il vostro gatto. Buon Natale dalla famiglia Monge a tutti gli ascoltatori e ai loro amici a quattro zampe. Monge, il menù di Natale per cani e gatti. Noi di Mercedes-Benz vorremmo augurarti un 2018 in cui raggiungere obiettivi più alti nella vita ed emissioni più basse in strada, dove superare i tuoi limiti riducendo i consumi. Ma perché aspettare? Fino al 31 dicembre hai 4.000 euro di eco-incentivo Mercedes-Benz su tutti i modelli se permuti un'auto diesel da Euro 1 a Euro 4. Quest'anno ha ancora molto da offrirti. Scoprilo su mercedesbenz.it. Dai contrasti nascono nuove armonie. Rossi d'Asiago ha creato Culto, la grappa di Amarone invecchiata in barrique. Carattere e morbidezza duettano in perfetto equilibrio. Grappa Culto, l'armonia è nei contrasti. Il culto della grappa.it. Stress da lavoro? Ricaricati tra le Dolomiti. Nella schiare a San Martino di Castrozza Passorolle ti aspettano piste perfette e panorami mozzafiato per un break all'insegna di sci, divertimento e benessere. Segui le webcam su sanmartino.com. Le avventure sulla neve sono già iniziate. Nei supermercati Alì e centri Aliper abbiamo ribassato il prezzo di tanti prodotti della vostra spesa quotidiana. Supermercati Alì e centri Aliper. Ogni giorno la genuinità, i sapori migliori, la cortesia e la convenienza di sempre. Prezzi ribassati. Non è una promozione, è una promessa. Anche a Natale. Alì e Aliper. Qualità al prezzo migliore. Fiat festeggia Disney Pixar Coco al cinema e lo fa con un'offerta assolutamente, decisamente, loca! Gamma tipo da 13.750 euro e in più per tutte le famiglie 1.000 euro di extra sconto. Cosa? Famiglie, correte in concessionaria! Io mi sento un po'... Fino al 31 dicembre sulla pronta consegna. Info su fiat.it, anche sabato e domenica. Conai per le imprese. Bentrovati, ci scrive un consulente fiscale. Vuole sapere quali sono i soggetti obbligati ad aderire al Conai. Sentiamo Walter Facciotto, direttore generale Conai. In base alla normativa vigente, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al consorzio Conai. Per produttori si intendono i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Per utilizzatori si intendono i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni, cioè di merci imballate. Per maggiori informazioni vai su www.conai.org o chiama il numero verde 800 33 77 99. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, eccoci qua ancora a Voice Anatomy e ancora Donatella Pandimiglio con la quale stiamo percorrendo queste pillole per imparare intanto a vivere, a respirare, a per parlare, ma per cantare. Però, ecco la scusa, ci facciamo delle belle chiacchierate anche molto leggere, anche con dei begli ospiti. Domenica scorsa è stata Paola Minaccioni, ne avremo degli altri, però io vorrei che tu facessi un piccolo riassuntino, anche se loro possono attraverso i nostri podcast scaricare e seguire quello che abbiamo detto, mm-hmm, e anche farsi due risate. Insomma, lo sapete che noi, almeno io, percorro fra il serio e il faceto anche, certo, problemi importanti, un po' di leggerezza. Ma non nella non vita, superficialità, no, leggerezza. No, leggerezza, questa è una bellissima cosa, perché bisogna prendere, diciamo, affrontare le cose serie con concretezza, però la leggerezza ci fa vivere meglio e ti fa superare anche i momenti più difficili. Assolutamente sì. Vorrei che tu facessi proprio riassunto in 2 minuti, 120 secondi, la respirazione, quando hai cominciato le narici, la terza narice, insomma, fai tu. Va bene. Ti voglio fare un 2 minuti e mezzo, che poi dobbiamo concludere in questo tutorial almeno la base della respirazione. Della respirazione. Poi ha molti meandri la respirazione, sì, però certo, diciamo che come vabbè, base può bastare. Vai! Allora, io intanto spero che non siate rimasti lì da tante settimane seduti sulla punta della sedia. Oh, oh no, sempre ecco in pizzo alla sedia perché almeno allora, bloccate le spalle. Ritornate su in pizzo alla sedia. Vai. Perché nel frattempo avrete fatto qualsiasi cosa, viaggiato per il mondo. E, ricordiamoci allora di inspirare, inspirazione profonda nasale con le narici dilatate e non costrette, quindi... Perfetto, sentirete che si aprono tutti i muscoli del torace, si alza il diaframma e si allargano anche gli addominali. Aggiungiamo la terza narice che è la bocca, ma sempre senza far sentire il rumore, per cui abbiamo la sensazione di entrare subito nella profondità. Allora, entrare in questa profondità poi, subito dopo vi dirò a cosa ci porta. Abbiamo detto che ci porta al rilassamento, abbiamo detto che ci porta allo sblocco del chakra vitale, che è quello che conosciamo attraverso la respirazione yoga. Però poi abbiamo anche visto che alla fine di questa inspirazione dobbiamo imparare la sospensione apneica, perché poi capiremo che la sospensione apneica è quella forma di attenzione per evitare che quando esprimiamo la voce nel canto, nella recitazione o nel parlato, ci fa capire che dobbiamo fare attenzione a non abbandonare tutto quello che abbiamo preso in poche parole o in poche note. Gestiamo altrimenti, questa benzina, insomma, altrimenti, la benzina, altrimenti finisce subito e si stancano le corde vocali, facciamo molta più fatica noi, i suoni sono brutti. Quindi abbiamo capito questo, poi abbiamo anche capito che dobbiamo espirare contraendo gli addominali. Quindi abbiamo fatto l'esperimento di inspirare e soffiare con un colpo, un pugno sulla pancia. Questo vi fa sentire che gli addominali e anche tutti i muscoli dietro e i glutei si contraggono. Capite questa cosa però? Imparare poi a fare un soffio lungo, abbiamo detto il soffio lungo non è altro che questo pugno a rallentatore. Quindi sarà così. Alla fine di questo sentirete la pancia che è salita verso l'alto. Allora non posso descriverlo ovviamente visibilmente, però immaginate che nei nostri addominali ci siano le vostre mani messe come a raccogliere qualcosa, incrociate. E immaginate che queste venendo su incrociate si contraggano, quindi la pancia deve salire dal basso verso l'alto. Questo è importantissimo. E intanto questa cosa si chiama anche sostegno. I muscoli, il trasverso, infatti, sostiene le viscere, cala, sì, è proprio sì, sì, tutto la parete fa addominale. Fa stimolare un po' tutto il corpo, perché udite udite, si parla, si canta con tutto il corpo. Non mi fa così, mi guardi con quell'aria, mi usi questa voce, cioè, ma è una minaccia, che una capito, promessa, ma guardi così e si canta, si parla con tutto. Siamo arrivati qui noi, come siamo più o meno arrivati qui. E quando vi ho detto durante il ripasso che la respirazione profonda che sblocca veramente, perché contro l'ansia, abbiamo detto tutto. Però questa cosa che cosa vuol dire? Io dico sempre che dei miei allievi potrei essere la psicanalista, perché in realtà la voce è lo specchio del nostro io profondo. Allora, molte persone che hanno problemi, anche persone che non fanno il nostro lavoro, che hanno problemi e parlano stringendo la gola e comunque schiacciano, hanno dei problemi non risolti psicologici. E questo tipo di respirazione sembra incredibile, ma li aiuta anche a ritrovare proprio un contatto col proprio io profondo. E questa è una cosa veramente importante. Quindi ricordatevi che tutto questo vi può aiutare sia per fare questo mestiere, ma vi può aiutare per essere più forti prima di un colloquio di lavoro. Per la gestione dell'ansia. Per qualsiasi cosa, perché diciamo vi mette in rapporto con voi stessi. Ora però vi ho detto che c'è questo soffio forte. Allora, vi aggiungo altri esercizi oggi per chiudere questa cosa. Allora, l'esercizio, il soffio forte, abbiamo detto che è... E sentiremo la pancia che corre velocemente verso l'alto. Poi dopo te lo faccio fare. Sì, okay, no, no, quello questo passa, lo so fare. Così, non c'ho manco la pancia io. Ecco, vabbè, poi sentirai come la devi sentire. C'è il nostro tecnico del suono, Alessandro, che invece sta dimagrendo. Poi la faccio fare anche a lui, non credere. E non so se la pancia sta, perché pure dall'altra parte del vetro io saluto come sempre i miei grandissimi collaboratori, senza i quali non si potrebbe vivere, sono quelli che non ti accorgi che ci sono, te ne accorgi solo se sbagliano, ma loro non sbagliano. E allora io ringrazio Alessandro. Grazie, di ti ringrazio anch'io. Grazie a Rachele, la nostra caporedattrice, grazie anche agli autori, che insomma, capoprogetto Alessia Navarro e Mauro Meconi. Qui, questa è la nostra famiglia, e poi Radio 24 e Milano che ci manda in onda. Yeah. Benissimo, allora diciamo anche a tutta la redazione che quando si sentono stanchi dalla giornata lavorativa possono fare questi esercizi. Il secondo esercizio di soffio è un soffio che rallenta ancora di più, quindi diventerà... Ecco, non è la radio che... Non è il fruscio, smetto, il fruscio, perché sennò le persone cambiano sì, canale. Sì, sì, è successo, stata la comunicazione. Allora, che cosa succede? Il segreto è di sentire che il soffio è costantemente uguale. Allora, questa pancia che sale come il pugno rallentato, dobbiamo pensarla come rapporto proporzionale di sospensione, di tenere fermo sopra e di mobilità sotto. Che cosa succede? Quando io soffio forte, diciamo col primo soffio che abbiamo fatto, abbiamo il 50 e il 50, quindi per 50% faccio attenzione a non far cadere il torace verso terra e il 50 è la pancia che sale su e tiene su questo torace. Con questo tipo di esercizio, che cosa facciamo? Nel rallentare, più soffiamo lentamente, più dobbiamo stare fermi sopra. E questo te lo farò fare, questo esercizio. Ti sembra facile? No, no, no, non è facile per niente. Ma non lo è. Allora, e altrimenti che succede? Che troviamo le buche. Succede questo. Se non sosteniamo bene gli addominali in maniera progressiva, tenendo presente questo rapporto... Quando uno canta va... c'ha le buche e praticamente non sostiene bene le note, lo sentiamo. Sei galante, sei crescente. E poi si sente proprio quando non sono sostenuti i suoni. Si avverte quando... Ora, magari le persone profane non se ne possono accorgere. Sì, noi... Però magari non gli piace però una cosa. Però non gli piace e dice questo non canta bene, esatto. non è capace, non ci piace. Non è, che... è poco pratico, diciamo. È quello che pensano di me. Non è vero, ma non è vero, guarda che prima o poi ti faccio fare un pezzo in diretta, eh? È una minaccia questa. Vai, no. È una minaccioni, il professore di Paola dell'altra settimana. È una minaccioni. C'è l'ultimo esercizio, non l'ultimo, insomma, diciamo con i soffi, che è particolarmente complicato, io ve lo dico comunque, sì, dillo, però dillo. Insomma è un po' difficile. Allora, questo, diciamo, questo soffio è un soffio che silente, non si sente, non si deve sentire. Come Harry Potter, silente. Il mago, ma... Silente. Com'è questo soffio silente? Allora è così. Dobbiamo pensare a proposito dei rapporti, è come se sempre naso bocca, fosse respirazione, la ispirazione è sempre la stessa, assolutamente. Quando dobbiamo fare questa emissione di soffio, l'emissione deve essere impercettibile, come se noi avessimo un filo di seta fra le labbra, che deve essere però tondo, non deve essere a lama, non deve essere... Altrimenti buchiamo il torace. Non dobbiamo fare questo, ma come un bacetto, la bocca deve stare come un bacetto con quel buchino. Allora, se avete una piuma ad oca, che sì, la potete prendere correte dietro un'oca, dietro un'oca, perché se no non la potete recuperare, è facilissimo. Allora, chi è che non ha una piuma d'oca a casa? Chi è che non ce l'ha? Rompete un piumino però, e tiratele guardate, fuori. Guardate, nei negozi una. Cinesi oggi ci sono le penne con le piume d'oca, esatto. Quindi le potete non so trovare. Doga, però, vabbè, saranno di plastica, però vabbè. No, devono essere però con leggere, quella morbidezza, leggere, quella leggerezza. E fate l'esperimento di questo tipo di soffio, e se la piuma d'oca rimane sempre abbassata costantemente, vuol dire, sentirete che cosa però nel fisico, che sopra sentiamo tutto fermo e sotto la pancia viene su molto più lentamente, perché più soffiamo lentamente più la pancia si muove lentamente e più sta fermo il torace e più la bocca a cuore. Questo mi sembra come gli esercizi che ha fatto Rocky Balboa per diventare campione del mondo e correre dietro la gallina. Ti dici sono cose analogiche, non digitali, ma che fanno meglio. Sono i rimedi della nonna, no? Dice, sì. Mettete una cosa della luna, cala sto pezzo di pepe sul dito, de pepe, cose particolari. Uno dice, ma funzionerà? No, questa funziona da morire, perché è vero, tu ti rendi conto se la tua emissione forse è costante. Forse abbiamo finito il tempo. Sì, sì. Abbiamo finito il tempo, e perché io volevo farvi sentire, ma lo faremo in una prossima puntata. Ci sarà, ancora ci sarà. Sì, sì, faremo sentire per una puntata, ve lo faccio sentire un secondo. A cosa si corrisponde, sperando che di mattina, insomma mattina, sì. Primo pomeriggio. Fine dei programmi. Senti, non smette. E non sono finta, sono vera. Sì. Mi guardano male anche la regia. Tu vedi una che sta così. Allora, chiaramente bisogna vecchio monoscopio da Rai. Esatto. Quindi questo per far capire che questo tipo di tecnica è utilissima anche per questo di cose. E per gli attori invece è comoda quando si devono fare le famose tirate. E certo, non cioè quando si devono dire tante cose. Tante cose insieme. O quando a vostro marito o a vostra moglie volete dire tutto insieme, c'è soltanto esatto. 30 secondi. Esatto. Bene, allora ci vediamo, sentiamoci. Ci vediamo noi, ma ci sentiamo con Donatella Pandimiglio domenica prossima. Ma noi andiamo avanti invece con la nostra Voice Anatomy. A tra poco. Alla prossima. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori miei, come promesso le 15:45 primi e 17:18 secondi in questo momento. La signora Anna Laura Carani, responsabile Carano dai, Carani. Volta che dici scusami, il mio cognome. Scusa Carano, non lavoro, per me la Warner e la Sony finiscono qui. Carano, lo so, perché per me sei plurale, non sei singolare. Mi sono salvato in qualche modo. Dammi il tempo di connettermi sulla pagina Facebook. Fa la diretta Facebook. Ovviamente io la ringrazio lei e ovviamente la Warner e la Sony che hanno dato questa bellissima possibilità intanto a tanti ragazzi di potersi esibire attraverso le onde radio di Radio 24, che non è proprio una radio qualsiasi, e che ha dato questa possibilità a tutti voi di potersi cimentare. Siamo in diretta Facebook? Qualche secondo. Qualche secondo. Eccoci, ci siamo. Allora... ruota il tuo dispositivo, ti dice qui, non puoi girare il tuo telefono, ecco, così, in diretta. Ma noi non siamo un'altra generazione. Assolutamente. Allora io direi, se sei d'accordo Pino, che hanno l'occasione i ragazzi per farsi dare anche un consiglio, che questo lavoro lo fa per mestiere, e quindi magari cominciando da Michael, se Anna Laura. Allora Michael, tu hai una voce molto particolare, ovviamente, non è una voce diciamo classica, è una voce un po' più da carattere o da animazione, però sicuramente sei sulla buona strada. Dovrai imparare più che altro a variare molto e magari a usare anche la voce in un altro modo, perché anche se la tua voce è diciamo piuttosto di testa, un po' sporchina, però bisogna imparare a usarla in modi diversi. Federica, aspetta perché non mi ricordo bene. La voce più leggera, la ragazzina. Addizione molto rapida. Sono stati dati il foglietto con i nomi di Giacinto. Sì, ce l'ho io. Non me l'ha dato, perché io non ricordo. Ecco qui, mi avvicino. Io ho il grosso problema sempre di associare una voce con un nome e una faccia. Ecco, allora Federica, tu sei si vede che hai grande capacità mimetica, quindi ti, come si dice in gergo, ti appiccichi bene, perché sai variare bene le intonazioni. Ora ovviamente io non è che ho sentito il pezzo di nessuno, ho sentito il pezzo in originale, alcune cose io le avevo viste, alcuni film li avevo visti, altri no, però devo dire che comunque al di là di tutto la vostra capacità di recitazione è buona mediamente. Federica appunto ha questa dote al di là della velocità che è un dono, per come si va veloci, perché ovviamente l'italiano è molto più lungo dell'inglese sempre, quindi sì, spesso bisogna anche quando ti ridoppi in italiano è difficile, sì. E andiamo sulla terza signoria Bellucci. Bellucci, tu hai sei sulla buona strada anche tu, hai una buona preparazione recitativa, devi forse imparare a essere un po' più, come dire... Prima ci dicevi di sporcare un po'. Sì, di essere meno pulitina, perché almeno questo è quello che di cui secondo me c'è bisogno adesso nel doppiaggio, nel panorama del doppiaggio italiano. Cioè, ne abbiamo fin troppe di voci super pulite, di dizioni super pulite, eccessiva articolazione. Il modo in cui si ottiene la verità, la verosimiglianza con il linguaggio parlato è anche quello di non essere completamente sempre perfettamente. Ok, andiamo un po' più rapidi. Sì, scusate, ma Paola Barini. Paola, c'è giusto, insomma, gratificare tutti. Paola ha un grande talento drammatico, io credo, lo ha dimostrato nel pezzo che ha fatto, e sicuramente puoi fare questo lavoro, però devi renderti conto che appunto il dramma non è quasi mai presente ormai nei doppiaggi. Il dramma è nella quotidianità ormai della vita, Anna Laura. Sì. Burpi, Riccardo, vero Riccardo? Sì, no, Riccardo ha un grandissimo orecchio, ha una grandissima capacità di variare le intonazioni appunto e di variare anche l'emissione della voce, il che promette molto bene. E, Chevalier. Chevalier. Il clone di Chevalier. Matteo, vero? Daniele. Più. Vabbè, giusto. Quando insomma... mai mi ricorderò un nome? No, non ci mancherebbe. Daniele, anche tu sei un po' troppo stereotipato. Sei un po' troppo stereotipato nel senso che le tue frasi hanno quasi tutti la stessa intonazione sul finale, e questo ovviamente non va bene. Troppe frasi lasciate in sospeso, e questo neanche va bene. Però hai una bella voce, hai un bel modo di porti, quindi devi lavorare un po' di più sulla recitazione. Bene, però mi sembra che tutti possono provare a fare questo mestiere. Assolutamente, assolutamente sì. Nessuno di voi, ovviamente nessuno di voi, questo significa... Andiamo, diciamo i nomi, senti di là, allora, rullo di tamburi, Anna Laura. No, i nomi li annunci tu con la tua bella voce. Che disgraziata, Caranis, o Carano. Allora, signori, va bene, la scelta è... non ci sono primi piani. Per quanto riguarda gli uomini, allora si aggiudica questa possibilità della Warner e della Sony, Riccardo Burpi. E applauso al vostro amico. Bravo. Per quanto riguarda le ragazze, Federica Russello. Non succede come Miss Italia che si abbracciano. Cioè, tutte secondo me voglia da menaglia chi ha vinto, no? Però in questo caso ricordatevi quello che dico sempre io. È un ambiente sano dove veramente se perdi un provino lo vince un altro bravo. Voi avete dimostrato di poter fare questo mestiere. E questa radio ha dato questa possibilità. Anna Laura e la sua Warner e la Sony l'hanno abbracciata. Noi continueremo ovviamente da gennaio, ci sarà ancora una possibilità, ma questo non preclude niente. I primi miei turni sono stati con delle direttrici, due che mi hanno detto: tu mettitelo in testa, non farai mai questo mestiere. Ok? Centro sperimentale sono arrivato undicesimo, idoneo ma non ammesso. Non so che vuol dire, perché quando ho fatto il militare ero idoneo e mi hanno mandato a Brescia, per cui non ho capito che vuol dire idoneo ma non ammesso. E per cui è così. E poi ho fatto l'insegnante al centro sperimentale, non per il mio cognome ma per le capacità che uno ha messo in pratica. Siete veramente tutti bravi, non è il contentino, l'ho detto a tutti. Succede che va avanti qualcuno ma l'altro può inseguire e superare. Diventerà una sfida. A questo punto tirate fuori gli artigli, ma gli artigli positivi, la grinta e la grinta, la rabbia che bisogna mettere nella vita per non implodere, ma non per schiacciare chi sta davanti a voi, ma per cercare di superarlo, una sorta di lepre che vi serve per tirare l'andatura. Vi auguro ogni bene, spero che abbiate apprezzato la voglia che c'era da parte mia, da parte di tutti noi, di dare una possibilità in un momento difficile per poter trovare questo porto, questo approccio e questo approdo. Vi ringrazio davvero a tutti. Grazie. E tanto sono sicuro che qualcun altro lo rivedrò da gennaio sicuramente, che tenterà ancora una volta la scalata. In bocca al lupo a chi ha portato a casa. Sei commossa? Sì, sono contenta. E continuate a studiare, però, perché quello è molto importante. Allora, dici la parola, avvicinati, voi due vincitori un attimo al microfono per dire delle parole. Prego. Per voi vogliono le lacrime, non c'è televisione, lasciamo la Barbara D'Urso e le lacrime, ecco. Dai. Allora. Io sono molto contenta e non so, forse non mi rendo ancora conto e quindi... Non mi fa come i calciatori, ringrazio la squadra, il mister, senza di loro non avrei mai fatto. Madre, no, padre, io con i fratelli. Continuerò a studiare anche perché sto facendo un corso ancora non si in finisce corso. Mai. Esatto. E quindi continuerò a studiare sicuramente, spero di fare del mio meglio in questa opportunità, insomma. Assolutamente, tanto una laurea dei telefoni di tutti, per cui okay. Questo è possibile. Sì, telefoni, età, quello mi serve. Esatto, la mia ce l'ha, vabbè. Allora, ovviamente sono felicissimo e volevo ringraziarvi per questa opportunità, perché è un'opportunità rara comunque avere questa chance che ci viene data. E come per Federica continuerò a studiare, io adesso sto frequentando un'accademia d'arte drammatica, quindi... porteremo avanti questa... Non smettete mai. Non smettiamo mai. Non smettiamo neanche speriamo, noi. Speriamo di non smettere mai. Impariamo sempre. Anna Laura, grazie Anna Laura. Ma davvero, grazie a te, Pino, della tua grande dell'occasione. Mi sono molto divertita, devo dire. Torni, questa radio è aperta. Tornerò domenica. Tornerò sicuramente. Se tu a domenica vedi che a una certa ora hai finito di mangiare, non sai che fare, vieni qui e ti diverti insieme a noi. Va bene. Anna Laura da Carano, grazie Anna Laura. Grazie ragazzi, grazie veramente. In bocca al lupo. Grazie Alessandro, grazie Rachele, grazie Alessia Navarro. Grazie a Maro Meconi, grazie a tutti voi, auguri nel frattempo di Buon Natale, lo dirò sempre, gli auguri fatti da un Pino a Natale portano fortuna, dai. Grazie a tutti, a domenica prossima, ciao.